soli facciamo oltre le quattro stagioni, a parte quelle. No, non dovrebbe essere rotto, però adesso è gonfio un po' nero. Comunque se lo faccio vedere, va bene. Ecco, Sam Dragons è in diretta. Bentornati a Game of Thrones. Volevo dire, che Giulio si sta spogliando mi ha fatto vedere il suo piede. Benvenuti, questo è l'episodio numero 15 della Maledizione. Mi sono mezzo alla sigla, allora no. You can be. Adesso lo guardiamo. E altro oggi c'è anche il corso sopra perché sto perdendo l'autobus. Nella maledizione di Kat siamo arrivati al 15° episodio, ma continuiamo a giocare a Dungeons versione 5.0. Sì, continuiamo a parlare di Game of Thrones. E continuiamo a parlare di Game of Thrones. Che è una cosa che abbiamo fatto. Ascoltate podcast. Il mio salotto un po' di Edoardo Saladini. La risposta gratis, scusa. Tanto, siamo nello stesso archivio, comunque è la stessa casa, è la stessa contenuti, cioè. Ma cazzo pago, ho fatto io questo, ma c'è il multiverso VAPS, cioè. Poi io me lo immagino nel suo podcast che fa: ah sì, e con i miei amici che gioco, sì, i miei grandi, i Beceri e i GDR, e poi sono quegli altri che però non mi ricordo il nome. Sì, mi ricordo, ve lo dico, stronzi, ciao. E vabbè, comunque noi siamo Tycoons & Dragons, se ci potete seguire sui nostri canali social, il mio Tycoons & Dragons e RGDR su Spotify, iTunes, Google Podcast, senza perdere ulteriori punti di costituzione, magari è una sezione in cui manco mi tagliate tutto. C'ho almeno le mutande di questo personaggio, non lo so se non le hai mai avute. Cos'è, adesso vuoi facciamo il punto della situazione. Non mi ricordo. Questa cosa. Se no la riconosci. C'è una bottiglia in mezzo. Ah, sì. Tanto non si vedrà carta. No, sono io anche io. Questa pensavo. Ma sabato sera c'è una coca zero. Complessivo 2-0. Sabato sera. Sì, te la prendo. Forse non lo so. Bene. Chi fa riassunto? Va bene, lo faccio io, dai. Allora, si è lanciato Aegon Targaryen. Allora, c'era una volta un bambino chiamato Jon Snow. Che merda, lì. Oggettivamente, yeah. No, allora, nelle scorse puntate abbiamo splittato il party. Non nella scorsa vera e propria, però nella scorsa era splittato. Praticamente una parte di noi si è andata a ricongiungersi con Strahd e l'altra ha tradito Irina. E l'altra è andata e l'altra a Irina in salvo. Tradendola. Allora, e la parte che è andata, diciamo, tornata a Vallachi erano Atanas, Baern e Reis. E Reis e Garrosh. Garrosh non lo vogliamo, puzza. Loro sono tornati a Vallachi, sono andati a casa della tipa vecchia, della vecchia, Lady Vaktar. Lady Vaktar. Abbiamo preso il medaglione. Hanno preso il medaglione, hanno dormito lì. Il medaglione, però poi a un certo punto è arrivato. Ah, è un medaglione super figo in realtà contro i non morti. È arrivato. Come si chiama? Radin. Contro i vampiri. Solo che ora si andava il galoppino di. Non lo so. Se viene usato da un chierico, da un paladino buono. E io non mi ricordo lì, hanno preso degli accordi, se non sbaglio. E andranno a riprendere la signorina per portarla. Ma puoi dire cosa è stato? No, ancora. Strahd ci ha chiesto un segno di fedeltà. Vabbè, da vedere. Ah, sì, è vero. È finita lì. Sì, ognuno di voi decide di dare qualcosa. L'asmo voleva dare la sua capacità di schiacciare non morti. Giulio, se ho capito bene, gli ha dato una gomma vecchia che aveva in tasca. No, gli ha dato la testa della bambola. Ah, è vero. L'unico oggetto di gomma vecchia che aveva in tasca. A parte, no, non sono di gomma in quell'epoca. Dai, comunque, io gli ho dato ancora le reliquie. Ed è l'unica cosa che avevo del mio passato. Del mio passato. Se è tenuto solo quella che tu avevi nascosto. E più tutto ciò, io e Vez e Shiro siamo. Avete tradito Irina. Fammi finire il. È ancora con noi lei. Allora, sì, però invece abbiamo proseguito verso l'abbazia. Cioè. Fai capire proprio. Mentre loro dormivano tranquilli in una villa lussuosa. Ah, io ero rimasto in la galoppata sull'orso nero, sulla capra. che non noi, salvare l'NPG che esattamente, esattamente, okay. Mentre loro dormivano tranquilli in una villa lussuosa, noi ma dicevamo quello. Lui stava riassumendo. Io mi sono svegliato con meno di una costituzione e con il nemico. Aspetta, che faccio il riassunto, non mi riassumete come che sei. Ti racconta proprio mentre tu camminavi e poi non sono stato. Ho sentito meno uno, poi meno due. E giù. Potere! Vabbè, noi abbiamo proseguito a cavalcare verso l'abbazia di Kretzk. Di Kretzk. E abbiamo trovato sulla nostra strada dei lupi mannari, di tutto. Le capre. Capre. È morto Koglionovic per salvare Irina. È morto da Koglionovic. Ed è morto un po' da Koglionovic. Nonostante fosse già salvo. Perché Irina, perché Irina si è schiantata da corsa. Non è stato un bel momento. Era una capra del cocco pettorale. Avete fatto fare il passaggio del cavallo al volo. Siamo di meno. Arriva io... Pak e Garrosh siamo riusciti a arrivare a Kretzk e anche Kevin e Irina. Siamo arrivati, abbiamo visto la torre dove in teoria voleva trovarsi il bardo. E però siamo arrivati alla fortezza di Kretzk. Siamo entrati. Alla fortezza di Kretzk, ovviamente. Cioè, ci hanno visto tipo lì che stavamo mezzi morendo. Come il robot di The Outer Space. Questo esercito nemico pericolosissimo starà fuori da questi cancelli. Però ci hanno detto. Non avete portiamo il vino. E poi esatto, nel delirio di potenza di Katta, a un certo punto sembrava che l'unico modo fosse portare del vino. Qui. Io a quel punto ho cominciato a lanciare delle uova, e niente, poi però Casimir, se non sbaglio, gli ha fatto tipo quindi ha detto, ma questi non sono i droidi che stavamo cercando. Fatemi entrare. E siamo entrati. E niente, poi una volta che eravamo dentro, voi non volete il... c'era questa fontana bellissima. Ecco, questo è il momento in cui avete dimostrato il vostro vero lato. E a un certo punto dalla fonte è apparso l'ho visto in diretta, quella che tu hai rovinato in futuro perché hai ucciso la cosa. È apparso il fantasma. L'hai visto bene allora. È andata proprio così. Del fratello Sergei. di Sergei, fratello di Strad. Promesso no, non di Irina, ma del doppelganger di Irina, si chiamava Petrova. Tatiana. Che era Petrovna. Petrovna. Anche Petrovna era la sua. Era la sorella di riferimento. Allora. Petrovna. Era la sorella di Kevin che era la sorella che era l'altro doppelganger, quindi no, era semplicemente amante di Elfa come Kevin. Sì. Vabbè, se insomma, Kevin ha preso piede è stata l'amante. Vabbè, loro volevano ricongiungersi ma tu hai messo il cazzo in mezzo alle barre. È arrivato questo qui, si è apparso, io siccome qui praticamente ogni cosa che succede è iper oscura, ho detto no, è morto, perché effettivamente è morto. Però a quanto pare praticamente questo ha reso strada ancora più potente. E vabbè. No, non era così. No. Non sapremo mai cosa sarebbe successo se ci fossero ma toccati. Ma ha fatto capire che se toccava vincevamo, mi prendi 26 livelli e giù da morire. Però tutte le anime, come già sappiamo, rimangono intrappolate. Ti ringrazio per aver salvato la vita. Quindi non... ora a Kretzk fino a qui non c'era mai capitato di incontrarle queste anime. Questa è la prima volta. Non filosofeggiavo. No, nel senso che in realtà abbiamo visto quella di Adeni volare sul castello. Insieme alle altre, ma con noi non hanno mai avuto contatti. Infatti, io come lui la pensavo. Cazzo, si è alzato Katta. C'è la cinematica adesso. Perché voglio che immaginiate le scene che avvengono in contemporanea. Quindi mentre loro dormono tranquilli in villa, noi facciamo tutto. Loro adesso noi siamo nel castello di Strada. Ma scusa, è ancora peggio. Che gozzovigliano. Giulio si gonfia i bicipiti, ma si sgonfia le tette. È quello che stai facendo. Le scene contemporanee. Sì, bella scena. La scena è la seguente, appunto. In contemporanea c'è Strad da una parte che parla con voi e vi sta spiegando. Ah, Strad! Che appunto. Centralino mi passi. E chi parla? Lui è da tanti secoli che cerca di rimpossessarsi dell'anima di Tatiana. Ma chi il è potere. Tatiana? Proprio lei. Ma i poteri oscuri gliel'hanno sempre impedito. Poteri buoni, forse. il vi ha raccontato appunto che la sua maledizione è iniziata quando lui venne ucciso nel il giorno in cui uccise suo fratello e andando per prendersi Tatiana, lei per che ironia, sono stato ucciso per aver ucciso mio fratello. Lei rifiutandolo si buttò dalle mura del castello giù nel precipizio. Bruttina è stata. Nel fiume che passa di sotto. E ancora, in quel momento. Ma quante volte te la deve raccontare la storia? Arci. Mi sembrava che non ci fosse. Segui. C'eri quella volta. Oh, ma è nato ieri, Arci. Oggi, è nato oggi? No, è nato un botto di tempo fa. No, ieri o l'altro ieri. No, è inizio settimana. Oggi è nato il nome. Ha detto pesa 200 kg. Ieri l'altro ieri è pesa 200 kg. È nato 1,70. Così è. Io ho detto che ha 17 anni, 1,65 m, esatto. 55 kg. Praticamente. E non è stato un cesare, l'ha proprio tagliato. Vi ha raccontato che il patto che lui fece con i poteri oscuri nel momento in cui lui venne ucciso da delle guardie che in quell'istante lo tradirono perché era anche più fidare il suo momento di debolezza, fu quello appunto di dargli l'eterna non morte, per cui lui una volta morto non potrà morire mai più. Il prezzo di questo patto è che lui da questa valle, dalla valle di Barovia, non potrà più uscire. In compenso ha il potere di far uscire e entrare chi desidera e praticamente il controllo su questo piano di esistenza. Questo Strad. Uh-huh. E lui è lì, bello, tranquillo, che vi sta dicendo. Che apre un ospedale. A loro sto dicendo. Cosa? Niente. Andiamo in aperto due. E il chierico. The cleric. Appunto, potrei usare molto volentieri il vostro aiuto, adesso che appunto voi gli avete dato un pegno della vostra fedeltà. Dai. Grazie. Adesso è quello che hai fatto tu fino adesso. Sta pensando a che cosa chiedere di plausibile a chierico, che per fortuna odio, cioè. È difficile da fare. Vabbè, cambiava dominio. Facile. Dominio della morte. Quello sarebbe stato figo, ma lui ha detto non lo voglio fare. Sicuramente più figo che dargli un pezzo di pelle del cuore. Avessi cambiato dominio sarebbe stato lui figo. Che dominio? Chierico senza Dio, cioè, no, però al dominio della vita. Se avesse preso il dominio della morte sarebbe stato finissimo. Sì, esatto. Invece ha detto, troppo per me, io ho paura. Tanto non curo nessuno. Tanto i cura ferite ce li hai lo stesso. E non le usa, quindi. Quindi. Già non usa silenzio quando sarebbe utile, l'ha selezionato. È vero, l'avevo proprio preso. Allora, tanto che forse. Non lo spiego in quanto il piatto, esatto. Il patto. Piattaci. Lui vi spiega che. Tutti questi anni lui ha sempre cercato di andare da Tatiana, di prendersela, e gli oscuri poteri gliel'hanno sempre impedito in qualche modo. Dove uno è riuscito, forse riusciremo. E lui spera, vi dice, che con voi magari le cose possono andare diversamente. Vi dice, infatti, siamo noi Tatiana, gratis. Voglio che convinciate Tatiana a venire da me, in modo che sia lei, di sua spontanea volontà, a volersi unire nella sacra unione. È facile, puoi vedere i tuoi due fratelli? Non credo. Io che funzionerebbe. Vuoi rivedere i tuoi due fratelli? Non penso. Io confido nelle vostre abilità e spero che... E in quel momento lui si interrompe. Da strada, stacco di scena. Suora nana che fuma. No, è suore che giocano a calcio dall'altra parte della mappa. Una capra. Cioè, zoom out e poi zoom in. Cioè si ferma perché tipo gli viene qualcosa un magone? No, cioè cambio scena. È semplicemente no, cambio scena. No, lui ha il montaggio, è quello che non è riuscito a fare Game of Thrones. No, lui smette anche di parlare. Ha fatto meglio lui a parole. Esatto. No, aspetta di parlare. Proprio. Nel frattempo, appunto, c'è Irina che sta cercando di prendere questa mano che esce dall'acqua dove c'è l'immagine. E c'è lui, E mezzo di scivolata che è battesa. Wow, Shamshu! E Vardistran glielo la ferma. E Vet gran taglia fuori di Vet. Gran taglia fuori di Vet. Tu non potrai mai essere felice. Che gentile. No, che non il male trionferà sempre. Team Strand. Ah, vada che dato. Ho detto che era morto. Che schifo. In quel momento l'immagine di Sergei si incupisce, lui assume un'espressione di, come di dolore lancinante e man mano sbiadisce nell'acqua del laghetto. Immagino Bezzi come un po' Elliot quando fa la questa festa. C'è lei che piange, c'è Bezzi che ride. In quel momento ritorna di nuovo zoom castello, out e zoom in sì. La faccia di Strad che ride. No, sì. Come? Diventa improvvisamente arrabbiata. Vedete che appaiono sul suo volto delle rughe che prima non c'erano. Sembra quasi più bestiale la sua faccia. Non è più il damerino tutto bello, liscio e ordinato che avete visto quando siete entrati. E tutto serio vi dice: vi prego di scusarmi, le mie mogli si occuperanno di voi. E prende questo può essere fraintendibile, però cammina contro un muro e lo attraversa in area 9 3 quarti. C'è una porta di non gli andavi a aprire la maniglia. Sì, esatto. Che fai? Ah, per 5 minuti c'era il 9 3 quarti nel binario giusto. Guarda, se non mi facesse male il piede direi un calcio, guarda. A che strada scelgo? In quel momento ritorna da la scena ritorna a Kretsk, le nubi cominciano improvvisamente dove siete voi? La vostra mi ero perso città, il nome della città, io ero ancora sulla capra che ci stava andando, quindi. Siamo sull'isola di Kirk, in Croazia. Va bene, io prendo il vino, avete portato il vino. Io prendo Irina per la mano. Non c'è creare vino nella. E comincio a correre verso l'abbazia. Ma nel caso ce l'avrebbe il chierone con noi. È giusto. La prendi. Sembra una cosa molto romantica. L'hai allontanata dall'amante che la cercava per prenderla per. E c'è strada lì. Grazie di avermi portata. Grazie, Comodoro. Il cielo sopra di te si forma questa. E immagino anche voi. Lui ha preso verso l'abbazia. Che ovvio io lo seguo. Lui vuole fare questo. Quando afferra Irina, il cielo si incupisce. E vedi come se in cielo si formasse dalle nubi formassero un grosso faccione. È la mummia. Noti che tutto quello gli sta scappando, fa fatica a trattenere il ridere. Possiamo comunque correre. Anche sotto il faccione sta ridendo, sì, perché non può farlo. Dammi un secondo. Non puoi, è la cutscene, non puoi muoverti, stronzo. No, mentre ti stai muovendo, succede questa cosa: sì, il vento comincia a soffiare. Ma cinematico, è la cutscene del coso, non puoi fare niente. Salta. Cinematico. Puoi solo saltare il video e comparire. Ehi, perché sono morto? E il vento soffia fortissimo contro di voi ed è come se portasse le seguenti parole: lei è mia. E in quell'istante un fulmine cade dal cielo nella pozza. È una fontana o nella pozza? Non c'è nessuna fontana, c'è una fonte che è una specie di laghetto con tante lucine. Sì. C'è questo gazebo dove vi eravate riparati dalla pioggia. Perché pensavo fosse una fontana, tipo della fontana della giovinezza. Ma questa concezione della donna come una proprietà, cioè. Vaglielo a spiegare. In questo appena detto, questo fulmine prendela quando vuoi. Cade nella pozza? Cade nella pozza. Te la portiamo noi. Esatto. Deflagrando l'area circostante dove per fortuna voi vi eravate allontanati. Mm-hmm. E in quel momento l'acqua che prima era cristallina e pulita diventa torbida e maleodorante. Okay. Qualcuno ha cagato. Bene. Corriamo. Quindi questo per noi è successo appena lui ha allontanato Irina da. Esatto. Il faccione non c'è più? il faccione non c'è più. E qui è dove ti accorgi di aver fatto una cazzata. Il faccione l'abbiamo riconosciuto. Fammi un perception. Io? Però diciamo che non è che... Con vantaggio c'era. Perché non è che ci sono... Vabbè, 15. Lo tirano anch'io, era chiaro? Sì, era con vantaggio. Diciamo che i... Era chiaro o non era chiaro? Che era il centinaio di metri di nuvole. Era Vladimir. Chi è Vladimir? Vabbè, cosa? Strano. Vladimir Luxuria, era Luxuria. Io me lo immagino come Vlad di LOL. In realtà okay. Io uguale. Quindi in realtà non ho la percezione di aver fatto la cosa giusta o sbagliata. Non puoi sapere. Vabbè, tu sei convinto che la stai continuando. No, anzi, apparentemente è una cosa giusta. Esatto. In realtà, se fosse stata lì, sarebbe stata uccisa dal fulmine. Esatto. Cioè, dal nostro punto di vista l'abbiamo allontanata. Cioè, se non fosse che mi state sfottendo da 2 mesi e mezzo. No. Allora, questo solo perché non ci vediamo da 2 mesi e mezzo. Ma non è che noi ti stiamo sfottendo, è importante sottolineare che anche il master ti sta sfottendo. Dal nostro punto di vista la stiamo salvando. Cioè, ma l'abbiamo separata da dove è appena cascato un fulmine. Dal mio punto di vista. Arriviamo a sta abbazia. Dal mio punto di vista era una trappola. Dal mio punto di vista era una trappola. Sì, quella del finto. Per me è un finto spettro che lui ha messo per attirarla e la colpire. No. Quello secondo me no, però al io tempo stesso. Infatti, io sono un imbecille. Io non mi fido molto perché qua tra spettri e Garro, questa è la mela. È molto labile. Quindi la legna era così, era che se lei fosse andata con lui sarebbe stata tipo uno zoccolo di cavallo. Secondo me era un modo di. Il mio personaggio lo vede così. Va era bene, un modo di strappare. Vabbè, andate alla base. Tu l'hai salvato e quindi lui si è arrabbiato. Questo non abbazia, vero? Abbazia nella quale ho suggerito a Strada di celebrare il matrimonio. Comunque sta distruggendo tutto. Sta gonfiandosi. Non sarebbe bello celebrare il matrimonio. La forma di faccia che aveva prima. Funziona l'abbazia. Si può entrare. Allora, l'abbazia sopra la del città, vino. Devi fare un. No, ti prego. Devi fare del. Era dentro, però. Tu hai detto che era dentro. Sì, è dentro, sì, però in cima dentro, allora, sopra c'è una montagna che non c'è che parte. Vado e vabbè, vabbè, non è importante. Me la trascino dietro, se piange non me ne frega un cazzo. Che violenza sulle donne. Un sacco di patate. No, invece ti sembra che corra, non dico quasi come te, però... Allora mi faccio trascinare con un sacco di patate. Con un sacco di patate. No, Irina, basta! Il suo voto è cambiato effettivamente. Ora è quello di Strada. È via! Rientra Strada, noi alla faccia di Nina. Ma che cazzo! Sarebbe veramente un bel colpo di scena. Lui spallucce, vabbè. Il suo sguardo non è più triste, melanconico. Ormai sull'orlo di una crisi di nervi come era prima di dopo questa sera. Poi vado in bagno, più... per favore, 18, non è che adesso vado in bagno e torno. Ah, 16. Esatto. In quel momento tu ti senti un po' più... Perché è vero, è lì quando cade il tuono è lì che, perdi, che perdi due che avevi guadagnato. Vabbè, infatti cos'è? Vabbè, c'è dei tuoni. Ci sta. No, no, l'ha già fatto, l'ha già fatto. Cosa? No, che 10? Quello che ha adesso, il tuono era molto forte. Metti tutto lì. No, che dopo non ci ricordiamo. Cioè, ma tanto rischi era 20 dopo per correggerlo, sì, sai, vero? Non me l'ho messo 18. Ma rimetterà 20 dopo che non si ricorda quant'era, dice nel dubbio 20. Dicevo, il suo volto sembra più serio, determinato, mm-hmm. Come se avesse assunto una consapevolezza che prima non aveva. Vuoi il diritto di voto, eh? Riconosci quello che stai facendo per lei e adesso ti vuole portare in un posto più tranquillo. Mentre correte ti dice: attenzione, amico. Amico. Questo, cosa? Conoscente, nobile cavaliere. Ok. Quello bene, perché... no? Immagino questo. Tu è sarebbe il verde. Anche in questo posto si annida la malvagità. Nell'abbazia intendi? O nella cocre? Come nell'abbazia. Come nell'abbazia? Lo sai adesso? No, no. Perché tu hai strada. Prima non sapevo nulla. Che twist! Cosa vuoi dire? Cosa vuoi chiedere? Che io adesso le vedo. Io adesso... Cosa vedi? Con chi sta parlando? Con Irina. Con la faccia di strada. Io adesso ho visto attraverso i loro occhi. Guarda questo pezzo. Loro occhi... Comunque cosa fai nel frattempo? Sì, esatto, voi non siete lì. Come no? No, voi voi siete lì. Non mi hanno detto niente. Ho detto lo seguo. L'ho detto subito. Non l'ho sentito. Lo sto lì così a guardare. Bello quel fulmine. È anche più veloce di me. No, ascolta, no, in che senso? Hai visto loro occhi? Io ho visto attraverso i loro occhi. Sin dagli occhi di Tatiana. Gli occhi di... Dai. Sì? Cosa fa? Gli occhi... Oh, cambia i punteggi! Ma ti ha messo? G20? 20? No, 22. Ha messo 10, sta merda adesso. Ma chi l'ha detto? È stato il master. Ho visto attraverso gli occhi di Anastasia, gli occhi di Gertrude, gli occhi di... Ma ce n'era anche una con un nome bello? O... Anastasia, Gertrude e Tatiana? Lei... Ma cos'è contro Tatiana? Vabbè. Chi è Tatiana? Gertrude non è molto slavo. Mi dispiace. Si vede che un anno. Forse volevi dire. Che, anche cosa mi sono perso? Cioè, lui è entrato nell'abbazia e Irina è presa a scappare. No, lui sta correndo con Irina nell'abbazia. Irina ha tipo avuto il momento di consapevolezza. Adesso si sta che Irina fa. No, voglio andare la strada. Ah, vediamo. Sarebbe epico. E cosa dite? Quindi? Sarebbe hai visto il Rocky ora? Ora ricordo. No, povero stanzo. Ricordo tutte le vite che ho passato, tutte le morti che ho attraversato in questa terra. Sempre sfuggendo da lui. E ti posso dire che se c'è un posto. Quindi può raggiungere la battaglia in questa terra malvagio è la battaglia che lui ha avesse che lui avesse avuto la possibilità di corrompere l'ha fatto e sicuramente questo posto non sarà da meno per da cui piace. Dobbiamo stare molto attenti. Ok, e quindi cosa proponi? Cioè una non lo so. Fuga senza... Quindi sono... tipo l'unico posto era la chiesa di quella città di Medivar. Probabilmente quindi sì. Cosa proponi? Prima che io togliessi le reliquie. Andiamo, perché, andiamo perché, a vedere lo stesso. Perché tuo fratello pensava allora che sarebbe stato sicuro? Infatti strada riso. Lo credevo anch'io, ma evidentemente qualcosa è cambiato. Ma che, tu di quindi cui sei già stata qua in passato? Lo sente nella terra, solo, nell'aria, no, okay, solo nella tua, nelle tue vite precedenti. Sei stata qua. Ho solo un ricordo. L'anello voleva essere tantissimi trovato. Anni fa. Sì? Che non riesco a focalizzare bene. Ma ricordo storie dell'abate di questo posto. Sì. Che raccontano di questa figura sfuggente, non si è, quello che dice voi, l'attacco. Si vedeva molto si è sempre visto molto raramente in città. Tutto questo di corsa comunque. Sì, sì, sì. No, lei no, lo sta trattenendo. Potete anche camminare, non vi segue nessuno, quanto pare. Beh, Dio, non saprei. Appare nel cielo e lancia fulmini. E ti dice ricordo che l'abate venne in questo posto più di 100 anni fa e da allora è ancora qui e non è un buon senso. Le poche volte che è stato visto non ha mai presentato un segno di invecchiamento. Quindi è un vampiro evidentemente. Non lo so. Se lo fosse dubito che stare, che potesse che possa rimanere su questo suolo sacro, il che comunque può far ben vabbè, sperare. Il suolo non sia sacro. Sono delle reliquie d'erba anche lì. Se ci vai. Bello. Non è che non abbiamo altre esatto. Non abbiamo altre possibilità. Speriamo che non sia di non sia brutto come fatto. Tema. Va bene, aspettiamo allora che ci raggiungano gli altri, andiamo tutti insieme. Immaginiamo che siano lì con voi. Siamo qui. Cioè, avete fatto tipo 50 mentre metri dici, di mentre camminando. Dici, guarda, non è che siete non avete fatto una mezza maratona, siete lì. Pa, eccoti finalmente. Perché? Siete, tipo, si sono spostati di mezzo metro. Oh, dov'è Garrosh? Gli... sono qui! Non avevo tempo di aspettarlo, andiamo! Ma che tu sei basso, quindi... Ah, ok, dov'è? Anche Casimir è con noi, però, o no? Casimir non c'è. Ah, che cazzo! Ma dove serve? Ma dove... Mi ha detto che andava dal Borgomastro. Perché? Per tenerlo buono, perché... Ah, ok, scusate, no, Borgomastro, l'abbiamo ammazzato. No, che sì, no, siamo in un'altra città. Questo, questo non è... Andiamo dall'abbazia. È la città dell'abbazia. Aprite! Com'è? Kretzk. Aprite! E allora, arrivate al cancello dell'abbazia. Città col borgomastro ancora lì. Chi è che c'è allora. Città 1 e città 2? Cos'è? Pokémon? No. No, no, lì c'è i nomi. Città ABCD sono in One Punch Man. È One Punch Man e ABCD, sì. Sì. Ma 1 e 2? Kashmir! Allora. Non c'è Kashmir. No, è nato dal borgomastro. Allora, mentre salite vedete l'abbazia, non si capisce molto, ma qui c'è un disegnino. Esatto. L'abbazia è malvagia, sento il male che Kretzk. Che imbarazzo. C'è un muro che corre tutto intorno e al centro ci sono questi due edifici. Il disegno l'ha fatto lo stesso edificio della terza puntata. No, dai, è molto più luminoso. Sì, ma che senso ha? Ci sono questi due edifici collegati da questo muro all'interno della cinta muraria esterna. Arrivate al posto di strada, questo si chiama cancello. La fotografia dell'ultima così non finiamo. Non credo. Arrivate sarà anche quello delle altre. Al cancello esterno ci sono due figure che fanno la guardia. Mentre salite, notate sugli spalti delle altre figure con un elmetto e una lancia che stanno immobili sotto la pioggia cadente. Stanno immobili, possiamo andare. Sono due guardie, no? Apparentemente. Perception. Vai. Oh, qualcuno ti ha andato questa sessione? Sono 16. Sono due manichini. Infatti, dovrebbero essere. Sono dei manichini. Esatto. Veramente? Quelli sulle mura. Tipo spaventa passeri. Esatto. Però non siamo passeri. Oh! Sono degli spaventa passeri. Oh, quante ne so? Il mio personaggio probabilmente è qui di Barò, cioè magari. Mentre vi avvicinate al cancello, appunto, non McGee, come vedete queste due figure padre che McGee, stanno facendo la guardia sotto la pioggia scrosciante. Vi presto tutti! Il loro aspetto è questo. Sono gente allegra. Bellini? Beh, secondo me non dimora al male. Con i manichini. No. No, questi sono. I manichini stanno sulle mura. Scusa, ho perso. Questi sono al portone. Ah, okay. Piano terra. Ma te li vediamo così. Sono lì che stanno facendo la guardia. Buonasera, io ti metto così, ti faccio coglione. Perché? Coglionovi! Dalle facce, secondo me, questi vogliono il vino, eh. E mi viene tipo la sua faccia che gira attorno, fa nella pazzia, siamo sicuri. Tutto voi, secondo me questi allora vogliono il vino. No, ho capito una cosa però forse. Oddio. Solo un male superiore potrà sconfiggere Strat. Esatto. Noi allora non salveremo Irina, ma la uccideremo, prima la stupiremo. È l'unico modo per salvare la Strat. Prendetela. La guardia di destra se ne sta inchinata in posizione di squat, che non in italiano non so come si dica. Squat. Grazie. E vi sembra il volto quello di un nano senza barba, con dei pezzi di pelle d'asino che coprono la sua faccia e il corpo. Ha un orecchio umano e l'altro di un lupo. Ma dove cazzo è siamo finiti? È tutto per il bene? Cogliono! È evidente. So, il castello di Strat sembra molto... Questi sono un banchetto in un castello. Accuditi dalle mogli di Strat. Signor Vandistran, perché ci ha portato... Donne bellissime, scommetto. Dopo me faccio vedere. Okay, il muso da lupo. Finché non gli viene non le viene. Le sue braccia sono umane. A me va bene. I suoi piedi e le sue gambe sono leonine. E ha la coda di un. Tu che sei asino. Un druido, apprezzi il fatto che sia molto animalesco. No. La sua abominio. Le braccia l'altro. L'altro umane con i vestiti. Le belle braccia incappucciato. Copre di più le sue fattezze. E vedete comunque che la parte sinistra della sua faccia è coperta di scaglie. Era così. Di scaglie di lucertole. Di grano. E la parte dove destra. Voglio dire un calco a qualcosa. Dove? La parte destra invece ha del pelo grigio, tipo di lupo. E in mezzo ci sono invece pelle umana molto pallida. Ah, è stato tipo Chernobyl di recente. Uno degli occhi è felino e le mani e gli altri due si assomigliano a delle zampe di gatto con però i pollici opponibili. Che bello. Rakshasha. Cioè, quindi, però sono entrambe. Però non invertite andando verso di loro chiedendo aiuto. Sì. Aiuto. Sul serio. Aiuto. Okay. Cioè, proviamo a chiedere attenti al lupo. Messeri. No, avete fatto la scelta giusta. Uff. Ma non parlo neanche. Serio? Cosa volete? Siete voi i custodi di questa abbazia? Oh, sì. Vabbè, i cani non bevono il vino, i lupi. Almeno quello. Siamo venuti qua sono... a cercare ristoro e protezione. Io sono Otto. Tu come ti chiami? Beh, non sette. Io sono un cane, ciao, tu sei un cane. Io sono Bardistra, ma non ha alcuna importanza adesso. Scogliato. Possiamo entrare? Avete un odore strano. Dalle vostre. Anche il vostro. Aspetta, cosa volete? Ho del cibo con me. È plausibile. Ok, ma non è un tipo cane. Prendo. Io lo lancio nel lontano. Lui che cibo hai preso? Della carne secca. Oh, bene. Allora niente, lui la rincorre e la va a prendere, tipo la butta giù. Allora io vado verso l'abbazia. Sono letteralmente dei cani da guardia. Io vado verso l'abbazia. Ma sono in due. L'altro appunto dice l'altro invece vi guarda torvo giudicandovi. Ma stupidotto, dice. Io invece che sono intelligente. L'accesso è chiuso. Cosa volete? Vi prego di darci udienza. Abbiamo. Non hai qualcosa per calmare l'amico? Cavalcato a lungo. Un animale magari con le punti. Inseguiti da oscuri presagi. Che è mezzo animale. Per portare in salvo questa ragazza. Calma la bestia. Chiediamo solo ospitalità per parlare con l'abate. Si chiama Fabian o Wagner? Dimmi Wagner. Voi accettereste l'ospitalità? Raccomandato. Da uno come me? Certo. Deception. Perché? No, scherzo. Per me sono serio. Cosa ti ha chiesto? Anche perché non abbiamo alternative. Beh, adesso col male va d'accordo. Non ti dà fastidio per capirci. Il nostro aspetto, guarda il nostro che ha fatto comportamento. Beh, diciamo che il suo è quello più quello di un cane. Tu mi sembri già più normale. Veramente. Ma non ho mai incontrato il vostro tipo di creatura. Ma non ho nulla contro di voi. E quindi in questo momento abbiamo problemi molto più gravi. Se l'aspettava. È da tanto che non sentivo delle parole così. Sì, è famoso. Sincere e tolleranti nei nostri confronti. Vi concederò udienza. Sì, uno che se ne fa Steam. Ma Da Vinci Steam. Ma esatto. Solo se no, Strad. Cosa vede il lupo? Dell'acqua, dai, cosa può avere un lupo? No, vogliamo tutto il vino, questo è ti ringrazio per sapere il tuo nome. Il mio nome è Siegfried Bellevue. E lui è mio fratello, Otto Bellevue. Piacere di conoscerti. A quanto pare. Però non è un bel vedere. Piacere aspettato anche me. Lui sta fuori. E niente. Avevo pensato a bello sguardo. Seguitemi. Forse l'ora è un po' tarda, ma potreste comunque essere essere ricevuti. Vedrò di questo bello guardo mille, è un tipo di come l'avete detto entrate nella abbazia di Santa Marcosa. Padre Roby, le sono cadute le braccia, le sono cresciute. Le sono cresciute. Oh. Allora, l'abbazia è fatta in questo modo. Voi entrate da ragazza. Ma cos'è questo? Ancora non servo allora. L'entrata dove li avete incontrati è questa. Tecnicamente avete un teletrasporto per ovunque. Arrivate in questo cortile. Però adesso dobbiamo intrattenerci sulla vostra destra. Prima dobbiamo intrattenerci con le mani di Strad. Dovrebbero essere a forma tipo di croce. Anche perché non c'è stato detto di fare niente. È a forma di pene. È un convento. Dobbiamo convincere Irina. Sì, però. Dove siamo noi? Noi siamo entrati dalle palle. Noi siamo nello scroto. Cazzo, puoi fermare il monitor di sta merda. Se lo tieni fermo, magari. No, c'è il blocca schermo. Non è che per la giro. Effettivamente, non entriamo. Allora, noi siamo nello scroto. Le palle. E stiamo andando verso il grande. È un pene, un'abbazia. Quale? No, raga, è una pistola, non capite niente. Tendenzialmente più la chiesa si eccita, più noi abbiamo un boost verso il Mapsid. Più andate avanti e indietro. Sostanzialmente è un convento più che un pene. E quello di suore, ecco perché l'hanno voluto fare a forma di pene. Sulla vostra destra, nel cortile, siete vedete che parte il cimitero che costeggia il muro esterno, dall'interno. Sarà bello riposare qui. Tra poco. Azia! Quando mi riposano tutti gli spermatozoi. Sì, cimitero caduti dopo la shake. Beh, una volta usciti dalla cima è una nuova vita. Proseguendo arrivate in prossimità dell'ingresso. Beh, uno ce la fa. Di solito. Forse. Sulla sinistra là in fondo vedete che comincia c'è un orticello. Sì. Che i peli. Alcune piante. Però sono tutti arbusti bassi. È nel glande l'orticello. C'è un vigneto anche. Magari questi fanno il vigneto. Ci sono i peli, sul glande non sono. Invece che fare la birra trappista, magari facevano un vino trappista strano. C'è mezza faccia lupo, mezza faccia asino, cioè. Allora, siete arrivate di fronte all'entrata. C'è, quello è un posto sicuro. C'è un... io farei un matrimonio lì, Dei muri, perfetto. I muri sono alti 15 piedi. Ci starebbe. E collegano le due ali dell'abbazia. Che cosa è che li collega? Un muro. Questi muri. Di 15 metri. Dietro questi muri vedete, sopra questi muri vedete che ci sono in piedi due guardie. Canta, studiamo meno attenti. Delle chiese, storia dell'arte. Vai la... Ci sono delle guardie? Ci sono due guardie sull'attenti. Che notate essere sempre di questo tipo. Di quel tipo. E le porte sono di legno, rinforzate con bande di acciaio. Sicuramente è un posto sicuro questo di pieno di manichini. Ma sì, dai, anche poco inquietante. Alla destra di queste porte c'è una placca con le scritte ramate montate sul muro. Perché si vede il taglio? Perché sulla scritta c'è il nome dell'abbazia. Lasciate ogni speranza. Abbazia di Cristo, se posso. No, è l'abbazia di Santa Marcovia. Santa Marcovia. E sotto appaiono queste parole: possa la luce curare tutte le malattie. Qua c'è riuscita poco. Magari in realtà sono guariti da però sembra davvero la luce e il buio. Siamo noi tre e loro e voi. Le guardie, appunto, sono degli spaventapasseri che indossano una catena di maglia, come si chiama? Le scaglie di grano. Una cotta di maglia arrugginita. Ok. Ma sono sempre delle creature un po' mostruose? Che cosa? Questi che indossano? No, sono degli spaventapasseri. E anche la lancia che hanno è tutta arrugginita. Le porte non sono chiuse a chiave, ma sono molto pesanti da aprire. E chiedo a Zigfried. Bellevue. Non è la prima volta che vediamo qua dei fantocci, diciamo, come guardie. Quelli? Sono finiti i fondi per le guardie. Hanno un significato. Sono stati dei tagli. Dove l'avete visto? È pieno di maledetti passeri. All'ingresso della città. Anche qua. No, no, no. Solo qua li abbiamo visti. ce l'ho qua all'abbazia. Dicendo qua. All'ingresso visti sì, anche no, esatto. All'ingresso c'erano delle persone. No, all'ingresso dell'abbazia. No. Cioè all'ingresso della corte dell'abbazia. Sono sempre quelli. Li hai visto quelli che danno verso l'esterno e questi sono quelli che danno verso l'interno. Sì, sono due cinte murari. Quindi ce ne sono due più due. No, nel punto in cui prima costeggia la fuori e poi avete visto dentro. Ah, ok. Sono gli stessi, quindi? Il punto in cui li avete visti che... Cara, se non metti il blocco a schermo lo lancio contro il muro qualcosa. No, non capisco se sì, sono delle statue oppure sono... No, sono dei spaventapasta e vestiti da guardie. Però il sentiero per salire dalla città costeggia il muro. E il muro esterno qua è lo stesso muro sia dell'abbazia sia della cinta esterna. Da dentro abbiamo visto quello, ok. E dentro c'è invece, si dividono. Se ne abbiamo visti da fuori, che siamo entrati, li abbiamo visti da dentro. Vabbè, hanno un significato Servono a tenere via gli assalitori. Ah, che interessante. Io. Cioè, da far desistere. Sono molto più veloce. Sì. Okay. Sono molto più veloce. Ma c'è il telefono, che il mio è assistente. Perché siete pochi a potervi difendere. Merda. Oh no, è più un discorso, come si dice? Precauzionale. Sì. Ah, è carino. E quelli non hanno bisogno di dormire e mangiare. Prendiamo anche questo per strada. E stanno lì senza lamentarsi. Vedi se è quello, immagino. Grazie. Entrate nel giardino interno. Le guardie manichini non avvertirono. Aprendo le porte, che non ci lamentavano mai. Questa nebbia che era tenuta all'interno e si sparge verso di voi sostanzialmente. È da lì che viene la nebbia. No, ce n'è molta di più fuori. Con altri due gol sì. C'è ancora mezzo. Questo giardino è circondato da questi muri alti 15 piedi di pietra. 15 metri o 15 piedi? Cata, cambia misura ogni 3x2. Ho sempre detto piedi. No, hai detto 15 metri. Vabbè, sono 15. Comunque più vedete più chiaramente che queste guardie sono dei spaventapasseri. A nord e ad est ci sono delle porte di legno che portano alle due ali dell'abbazia. Sì. Al centro c'è una pietra che è un pozzo di pietra. Sì. Wow. Che è, diciamo, piazzato sopra una piattaforma di casi. E poi c'è il, come si dice, il rostro di ferro dove c'è la corda con Stai ascoltando che parla il cesso il secchio. Ci passiamo in fianco. Siete appena entrati e lo vedete lì di fronte. Prossima volta venite da strada. Ok, praticamente lungo il perimetro vedete tutta una serie di celle, di porte di legno, sì. Che una per ogni cella alle quali conducono. E ok, nel terreno più roccioso c'è praticamente questo. Ci sono piantati nella roccia. Ma qui scusa, siamo all'interno però. Sì. Ok. Questi anelli di ferro, e ad uno di questi c'è legata una catena. Sì. E questa catena è legato un umanoide. Molto piccolo, con delle ali da pipistrello e la mandibola di un ragno. Ma che bello, rega! E il silenzio è infranto da delle urla orribili che vengono dalle celle. Faccio un tiro di... Tutte umane. Ma che bel posto! C'è molto poco. E che buon vino! Io catto, faccio una prova di perception. Per scoprire se riesco a capire quante urla arrivano, cioè dalle urla che ci sono, per capire quante persone sono, secondo me, quelle incarcerate. dalle celle con un 23. Cioè, ci sono 4 persone che urlano, 2 donne o 30 uomini. È la definizione di persone. Ok, sono delle bestie che urlano. Vabbè, sono tipo dei grugniti. Senti, i rumori più disparati, appunto, dai grugniti, il abbaiare, il... Faccio un tiro altri di mani, nella mia fattoria. Un barrito. Faccio un tiro. Voglio andare da strada. Intanto tipo flash noi con la moglie che ti chiede in bocca. Mio, c'è legato il culto a tutto questo che stiamo vedendo. Cioè, no, dove l'immagine per esempio tipo i fialte quando va dalle onde. Esatto. Ascolta, c'è una fermata dell'autobus qua vicino. Però i mostri sono da voi, esatto. E non da noi. 12. Non so, passa allora, la metro. No. Marcovia. C'è Mobike. Sono dei cavalli che durano poco. Sai di Santa Marcovia. Se passa Giulio soprattutto. Ci sono dei mezzi cavalli. No, sono però anche mezzi serpenti. Vabbè, di tutte queste bestie ce ne sarà una che posso cavalcare e andarmene. No, di tutti questi mostri ce ne sarà una. Quindi però, cut da questo numero, da questo perception, mi sono fatto 23 anni, mi vai a buttare nel cesso, più o meno, riesco a capire quante bestie... Dopo ti do un'idea, fammi rispondere alla domanda di Vardis. Poi tu 12, Allora, di Santa Marcovia, sai che divenne... prete del Signore del Mattino a 18 anni, seguendo che domanda il suo hai fatto cuore. Tu, ragazzi? Cos'hai chiesto? Poi noi ci vuole più catta. 14, sì, ciao. Non ho capito la domanda di Lezzi, veramente me lo sono perso perché sono risposto. Volevo capire se il culto di sta Santa Marcovia c'entrava col fatto che ci fossero solo delle gran aberrazioni. Ok, quello che avevo capito io allora. All'età di 30 anni lei si svegliò, ma stava un po' male, quindi si era addormentato. No, scherzo. Divenne famosa e ebbe una grande reputazione per non permettere mai al male di sopravvivere a lei. E considerava Strahd un tiranno pazzo, ma solo dopo la sua quindi trasformazione. Impazzì anche lei. Solo quando solo però Strahd divenne un vampiro, allora lei osò sfidarlo. Raccolse i suoi follower e i suoi credenti e marciò alla volta del castello Ravenloft. Sì. E Strahd provò a mandare un gruppo di progenie alla sua abbazia, ma vennero distrutte una dopo l'altra da Santa Marcovia. Sì. Con la insomma, credendosela con la confidenza nata da questa vittoria, proseguì verso il castello e una grande battaglia venne combattuta dalle catacombe fino ai parapetti dei fino ai bastioni. Ah, terzo episodio. Sì. E no, alla fine Marcovia non tornò mai a Barovia. Beh, anche la mia testa è interessante. E per lungo tempo Strahd camminò con un bastone e una smorfia di dolore nel suo volto. Si dice che Marcovia sia i suoi spogli siano intrappolate in una cripta, nella cripta sotto il castello, dove le sue suoi resti rimangono. E quindi non hai un non c'è un collegamento tra queste due cose. Ci deve essere successo qualcos'altro. Ma nel castello dell'abbazia? No, nel castello di Strahd. Dove è andato? Il castello dell'abbazia. No, sono abbazia, sembra un castello, sono sì, mura, guardie, torri. Sì, cosa succede? Torriono, Siegfried dice: aspettate un attimo qui e vado a. Sei il cazzo di sua madre, faccio una prova di. Beh, magari. Non volevi sapere quanti sono. Dato 19. Tra sì, l'altro, magari sì. Cioè, ah no, vado a vedere, non sei. A questo punto, che volgare sei comunque, Arci? Eh? Eh? Se te non te lo sei subito dalla spiegone perché sei lì che cazzo. Comunque, 19 su intuizione. O sei tu a dirlo, vado a vedere. Siegfried vi dice adesso vado a cercare di chiamarvi l'abate. Abate. È sincero? Sì. sparci. Perché stai sparando dei bei? Poi ti arriva, ti arrivano un branco di stronzi. Ma tanto arriveranno comunque. Oh, sì, è un abate cruento. Vai, poi. Aspetta, adesso devo rispondere al signorino. Qui. Senti che risposto la lunga rispetto alla tua. Ora mi fa 10. Temo non sarà così. Beh, è la risposta che tu vorresti. Sì, sta... è quello che ho chiesto. Temo non sarà così. Non mi piace. Ho chiesto di catta, visto che mi rovi troppo su. Riusciresti a far vedermi qualcosa per farli scendere? Che testa c'ho? Allora, quanto avevi fatto? 23. A percepire? Sì. No. Allora. Beh, in realtà sì. Senti che dal pozzo proviene una vocina che sta canticchiando. Anche sale. Sale bellissime. Sale così, guarda. Oh, hai capito cosa hai? Una vocina che canticchia dal pozzo, hai capito? E cosa canticchia? È tipo un mega mind. Del pozzo. Esatto, proprio un uomo sfinito dalla vita. Comunque questo. Un uomo distrutto dal mezzo dell'esistenza, non ne può. Ma chi sono io? Sì. Le... invece le celle sono 9. E da dietro ogni porta, da ognuna si senti provenire o un ululato o un miagolio o un altro rumore inumano. Il posto che siete finiti, ragazzi. Cosa ti fa ridere così sbagliato? Arriva ogni ha ripostato la vecchia sotto e rive... e rivederla è sempre. Riusciamo a... è quella tua. Se sì, potete vedere il riflesso, questo la vecchia diretta sempre... di Facebook, la vecchia diretta di Facebook, aveva sarà bloccata. Sarà bloccata su questa scena. Comunque, è una voce che canticchia, sembra infantile. Sembra... cioè, è acuta, però potremmo mettere quella di un bambino. Profilo. E altre 900? E... sono le 9 celle, poi ti dicevo c'è giusto così, io ho detto così comunque. Mamma mia, avete visto come si chiama? Megamind. Esatto. Sì. O Spalletti, dipende. E poi c'è quello che vi dicevo, incatenata a questa catena, assicurata a un sì. Cerchio di ferro piantato in terra, c'è quest'altra creatura con queste ali da pipistrello che cerca di librarsi in volo, ma non va molto in là perché... C'è ali da pipistrello? C'ha queste ali da pipistrello e la bocca è quella di un ragno. E non c'è l'immagine, c'è solo la descrizione. Il corpo? E ha al posto del piede destro uno zoccolo. E al posto di sinistra una zoccola. E lunghi capelli neri appiccicosi nascondono la sua faccia. Sono un po' di mutilazioni, di miscugli, se riesce a risistemare il tutto, secondo me. Un pezzo da un pezzo dell'altro. Sì. Lei prova a volare via, ovviamente la catena finisce e ritorna. Questa era quella che era nel pozzo? No, questa è quella legata agli anelli, quelli per assicurare i cavalli. Tipo. Ma non hai detto che era tipo a faccia di ragno? La bocca di un ragno, le ali da pipistrello, i capelli, uno zoccolo a destra. Zoccolo, e prova questa a volare della... Una si ferma, non è una cella, è incatenata lì nel piazzale. Ah, ok. E quando la corda si tende, gli dà uno strappo, cade rovinosamente a terra e lancia un grido disumano. Ok. Siegfried. Siegfried. Posso chiederti perché sono incarcerate queste creature? È andato a chiamare l'abate. C'è 8 sì. Se vuoi. 8. No, no, no. Perché sono incarcerate queste creature? Loro praticamente... scoiattolo! E tu perché sei fuori? Vieni otto, vieni qua. Che ho visto Up, c'è una grande citazione. Loro sono miei fratelli. Siamo tutti fratelli qui. Perché loro sono in catene? Sono in punizione, non sono stati bravi. Cosa hanno fatto? Sono un po' agitati, hanno fame, ma anch'io ho fame. Dai qualcos'altro da mangiare? Sì, certo, 8. Guarda quella ragazza là, schiamerina. In che senso siete tutti fratelli? Gli lancio basta, un po' mando queste tanto tanto tempo fa. La mia famiglia venne in questo posto. Tanto tanto tempo fa la mia famiglia, devi raccontare la storia della sua vita ogni volta che parli. Cioè. Certo. Erano molto sfortunati, perseguitati da un'epidemia di lebbra. Arrivammo. Com'è interessante, com'è divertente. Arrivammo qui e l'abate ci salvò. Sempre abate. E l'abate ci salvò. E ci donò queste bellissime cose. Adesso possiamo volare come gli uccelli, abbiamo la forza dei muli, l'udito e l'olfatto del lupo. Il cervello di una gallina. E quindi da allora viviamo qui e stiamo in oddio, felicità. Ce l'ho! Dimmi. Un modo per salvare Irina. Farà diventare un miscuglio di merda. Sì. Vabbè. E la strada farà tipo Emmy, tutto sommato, tuttavia ci sono anche altre. Beh, è bello perché il mondo perché è pieno di possibilità. E l'abate che fine ha fatto? È qui che ci accudisce. Bene, qui dove? Sì, adesso c'è da chiamarlo sperando che è il fratello, sei cammino. Ma raramente dorme, il genere sta nel suo laboratorio, fa le sue cose. Mi racconti la storia della vita della Banna? Beh, la conosco da quando. Da quando sono nato, da mio babbo 7 e mia madre 9. No, non sembra per niente un campo per genio nazista con esperimenti di eugenetica. Questo è molto bello. Ed è la persona più buona e bella e giusta e carina e premurosa che io abbia mai incontrato, anche perché in genere incontro i miei fratelli e loro non sono così. Sei riconoscibile. Quanti siete effettivamente? Qua? Oh, molti. E riconoscibili. Adesso non ti saprei dire, anche perché so contare fino a così. Hai un po' del però sicuramente più di prende tutte le sue dita, però alcune c'è uno zoccolo magari no, non ne era dato sullo sfondo di leonini non ti sei dato sullo sfondo non si sveglia è fatta apposta sì. Sembra quello di è fatta apposta con lui che vi guarda tipo inquietante ok non dire così caro. E guarda Sceo cosa Madonnina fidanzata. Cosa sono? Guardati in questa qua, in questa qua. Dov'è l'ingresso? Questa è l'ultima. Sì, arriva sto abate. Sì, sì, adesso l'abate cruento esaminatore. Madonnina fidanzata. Dov'è il nord? È qua, ok. The King of the North! Dopo un po' torna Siegfried e dice: sua santità è pronta per riceverlo. Allora ora è diventata la mia foto profilo questa fissa. Vi accompagna nella struttura nord. Sì. Islande. E apre la porta ed entrate in questa stanza in cui al centro c'è questa tavolata molto lunga e un grande camino nella parte opposta da quella in cui siete entrati e delle scale. Non si compra questa carta. Alla vostra destra ci sono delle scale che vanno verso giù e alla sinistra quelle che vanno al piano superiore. E da sopra c'è questa musica molto gentile che suona. E c'è una musica molto gentile che suona. Suona una musica, si dice. Risuona, preferisci. Ci basta. Suona anche da interrompere. Ah, ma sarà la da un singolo strumento a corda. Non la porta solo quando deve. Suono di siccome deve partire, sta usando le maglie brutte che non può portarsi dietro. Non è vero. Però sì. Mi sta minacciando così. Riesce qua e quando faremo un accento, riesce la brava. Ma può dire, tuttavia. Ma tienila quando si può. Con altre magliette, sì. Quando è che l'hai portata quella domenica? Ti hanno preso per sempre? Due anni. Per sempre. Due anni. La stanza è grande, 50 piedi quadrati. Sì. e ci sono delle grandi finestre di vetro. Ma non ho detto no, io ho detto che forse credete che io prenderò nel culo i francesi. C'è il camino acceso con un grande calderone. Magari se non mi sei pagato uguale in Francia, non ho specificato Marsiglia, ho detto in Francia, non sceglierebbe la Francia che è più vicino. Dipende. Perché sopra sopra il focolare c'è questo grande disco dorato, quello che suona il disco dorato che rappresenta il simbolo del sole. In un angolo c'è una scala di legno che va verso l'alto, sono quattro gli angoli, e nell'altro una di pietra che scende nell'oscurità. Ok. Sono diverse sedie attorno a questo tavolo di legno, che ha praticamente la lunghezza di della stanza. Seduto in realtà che si sta facendo imboccare dalla moglie di strada. Ci sono le posate, i piatti di legno e i candelabri d'oro che sono appoggiati sul tavolo. Spero che siano tutti uguali questi candelabri, eh? Dietro a questi candelabri c'è una giovane. Raffigura un momento diverso. Poi trovate sopra lo scudo di Achille. Scudo di Achille a diverse cerchi. Dietro questi candelabri c'è una giovane donna. La sua pelle è bianca. Figlia di. La sua pelle? Storia 1%, descrizioni inutili. Mi dovrebbero servire per i medesimi. Sta cazzo lungo il manuale. L'ha scritta io, ma sta campagna. No, almeno qua non si sono le domande. Sono cortissime, però raccontarla a voi che la rende particolare. Sì, in realtà è sta cazzo di donna come ha la pelle di merda. Hai capito? Cioè, mi stai improvvisando per romperti il cazzo. No, è quello bello che mi fa. Entriamo. Ci sono due archi. Dico, catta, non ci interessa, vai avanti. E questi archi, sono fatti, no. Cioè, vedete questa donna? Sì, ne hai capito, che ha la pelle, come c'è? Una pelle molto chiara, d'alabastro. Sì. E vestita di un lungo vestito rosso. Sì. Se il suo sguardo sembra perso nei suoi pensieri. Un po' come il mio. Il suo aspetto è molto familiare. Ah! Koljonovic. Irinovic. È Laz. Petrovna. Signora Petrovna Vakna. Non l'avete mai vista. Signora Vakna. È Irina. Assomiglia molto a Irina. Oh. Irina è ovunque, scusa. D'altronde. Ma è una donna vera e propria? O è un quadro? No, è una donna in carne e ossa. Irina, sei tu? Le cui ossa. Cioè, dietro di te, sì, sono qua, coglione. Che cazzo. No, coglione. Bravo! Parlo all'altra donna. Cioè, è bello che con lui. Messer cavaliere. Oh, coglione, sono qui. Rico. Dai, fatti un giro da orso, dai, nei boschi. Oh, sveglia, zio. Dietro alla donna compare questo giovane uomo. Molto. Prestante fisicamente, alto, muscoloso, e vestito con la tunica marrone dei monaci, e prende gentilmente la donna per mano. Le tiro un limone. Beh, però dai, ha tagliato, se posso. Al collo ha un simbolo sacro. Ha un simbolo sacro di legno, con un disegno che raffigura il sole, e si muove con una grazia soprannaturale. Okay. È un prete proprio. Roberto Bolle vestito. È umano, sì, anche la donna è umana. Anche la donna. Tutti non è Irina. Ci vediamo bene tutti gli arti. Assomiglia Irina. Se assomiglia Irina, è Irina. Al 100%. Magari è una delle precedenti. Beh, ci sta, però. Facciamo sposare una delle Irine a strada e l'altra può vivere la sua. Salve. Tu le va tutte e due. Sì. Benvenuti. Tutte e due. Qual è il vostro nome? Irina 2. Oh. In genere le persone mi chiamano semplicemente la Bat. Ma voi potete chiamarmi come. No, parlavo con la donna. Lei non risponde. E lei non ha nessun nome. Guarda, persa nel vuoto. Ah, vedo che ha capito la posizione gerarchica. Bene, Roberto. Un po' di banchetti, grazie. Roberto. Roberto. Allora, chiamiamolo Ignazio. Vi prego, ditemi cosa vi porta in questo abate. Terreno sacro. Siamo qua al cazzo. In cerca di speranza, forse. Oh, farò di tutto ciò che è in mia possibilità. Abbiamo perso a vedere le creature che abitano questo posto. Lei sa chi è lei? E indica Merino. E indica l'abate, e... l'abate! Pari! La gente preferisce chiamarmi l'abate. No, ma chi è lei? L'abate! Devi chiamarmi no, abate. Indico Irina. Lui la guarda. Irina è un po' sospettosa. Beh, non nota che è uguale alla donna che lui si tromba. Beh, somigliano un po'. Però questa qua non parla la sua. Che sì. Vuole fare uno scambio delle donne? Lui vi dice. La mia uscita al negozio così, ma quello si vediamo l'Irina di seconda mano. Non avrei mai pensato di avere la fortuna un giorno fare una cosa treco di incontrare una delle reincarnazioni di Tatiana. Quindi capisce bene abate perché siamo qua. Forse volevo dire sedetevi, di prego. Siete vedo gli ospiti. Sembrerebbe che anche lei abbia un'altra incarnazione. E comincia a dare fuoco qualsiasi cosa che lui possa descrivere. Dobbiamo descrivere bene come ci sediamo. Giusto, funziona così. Se lei mi sta adulando, signor Vardistan. Signor Vardistan. Ma no, non lo so. Non dirglielo magari che... No, non ti sto adulando. Non ancora. Sir Vardistan, l'adulatore. Dovete sapere che una volta ero anch'io come voi. E venni in questa terra cercando di portare conforto alla quella gente disperata che vi abitava. No, non è esattamente quello che fa Vardistan, E ci riuscì a Abate? Beh, diciamo che all'inizio ebbi delle difficoltà, perché come immagino vi siete potuti accorgere, le oscurità sono pesanti in questo angolo di mondo. E ben presto capii che dovevo scendere a compromessi per riuscire a riportare il bene in queste terre. E queste creature quindi sono opera sua? Ebbene sì. Beh, compromessi. Molti anni fa i Bellevue vennero in cerca di assistenza in questa abbazia. E così sono stati ridotti. E direi che la porta. Sì, in effetti. È un posto sicuro. Loro cercavano rifugio da. Sembrava venire dal quarto. Sì, i Bellevue. Non è che mi cade in testa. No, sarà il legno. Ma veniva dal soffitto. No, no, è soffitto che ti cade in testa. Oh, meno male. Vennero da me cercando un po' di sollievo dalla loro condizione. Io provai in qualsiasi modo a lenire e a curare le loro piaghe, finché un giorno non si presentò un uomo alla mia porta. Portava parole di speranza e mi promise che sarei riuscito a risolvere la condizione che affliggeva queste povere anime. Ci riuscì, ma a un prezzo. E quando vidi quello che aveva fatto... Ah, quindi non è stato lei a curarli? Diciamo che mi ha aiutato a farlo. E chi era quest'uomo, mi perdoni? All'inizio si presentò con uno pseudonimo. Mi pare si presentò come un certo Vasili von Holzi. Ma ben presto gettò le sue finte apparenze e si rivelò per cui chi era veramente. Strano. Esattamente. Ma porca puttana. Era un mortale. Io venni qua pensando che quando è così io mi alzo, però dallo scranno Non si preoccupi, nobile Vardistran. Lei è sicuro qui. Tranquillo. Easy. Lasci che finisca questa storia. Sebbene sia lenta e noiosa. È sicuro. Lasci che finisca questa storia. Cioè, tipo, avremo altre ore da passare. Quindi possiamo andare. Anch'io quando venni qua pensavo che fosse l'incarnazione del male su questa terra. E le mie intenzioni erano quello di liberare questo posto dalla sua presenza. Siamo tipo gli unici tre nella faccia, sulla faccia della terra contro Strahd. Sì, adesso vediamo come si mette. Però in realtà adesso... Siamo gli unici tre coglioni che si stanno impuntando. C'è anche Irina. Però aspetta, Archibald, si mette così. Che adesso che ha cambiato un po' personalità non so. Infatti, mi sa che anch'io sono contro la batte. Io l'avrei già ammazzato dal primo discorso. Beh, crea degli abomini assurdi, penso che chiunque sarebbe contro. Io sono pronto per ammazzarlo. Exp. Però ci sono tante bestie che non so. Più exp. Sono incatenati, pronte per essere... E te però, tre, ragazzi. Se questo ha un filo diretto con Aspetta, Strahd. Sentiamo il fine della storia. La fine della storia è... Io pensavo fosse il diavolo in persona, l'incarnazione del male assoluto. Lo è. Ma quel giorno mal giudicato. Mi fece vedere come salvare da un dolore la morte certa. Beh, ma questa non è persone. Vita per queste persone. Sembra un po' beffarda. Anch'io all'inizio ero adirato con lui, ma gli stessi Bellevue. Beh, i Bellevue. Posso anche capire, ma gli altri sono tutti incatenati. Sono tutti Bellevue questi qua, eh? Sono tutti sì, discendenti di questa famiglia, è un clan. Sì, sì, però cioè, scusami, i due all'ingresso, per intenderci, sembrano stare abbastanza bene. Gli altri perché li tenete incatenati e rinchiusi, però? Cioè dite di averli salvati, però non è una gran bella vita se li dovete tenere rinchiusi. Come quello visti. È un confinamento necessario. Io... A volte rimpiango quello che abbiamo fatto ai Bellevue, ma sono stati loro stessi a desiderarlo. Loro volevano che avere le ali del falco, la velocità del cavallo, la forza del mulo, e non rinuncerebbero a questa condizione per nulla al mondo. E sono disposti a rimanere quindi incatenati dove sono, pur di avere queste cose? La loro è la condizione migliore possibile. E dopo il mio incontro Strahd si confessò a me e mi raccontò la sua condizione di prigioniero nel suo stesso regno, in questa gabbia dorata dalla quale lui è condannato a non uscire mai. Mi raccontò l'origine della sua maledizione e del suo desiderio di amore che gli venne negato. A quel punto capì che forse era quella la chiave per liberare lui e questa terra da questo pesante fardello. E così decisi di creargli una moglie, e indica Vasilka. Comunque è super arzigogolato questa avventura. Ve la presento. Veramente profonda. Lei è il mio capolavoro. Otto. La creatura che racchiude in sé la perfezione di innumerevoli persone. Concentrate in un unico essere. Io ho già vinto sto cosa. Grazie, ma non importava. Ma cioè, tu hai creato questa donna, giusto? Pensando che possa andare bene come moglie, ma tu sei consapevole del fatto che lui in realtà insegua uno spirito che tu non puoi riprodurre. Cazzo, Otto intelligente. Possiamo mettere lo spirito dentro ecco al golem. Ah, ora che ti chiamerò Otto? No, appunto dico, cioè, è un bel lavoro che hai fatto, ma è pressoché inutile, secondo quello che sappiamo finora. Nobile Garrosh, non capisci un cazzo. Sollevi un'ottima questione. Sollevatore di questioni. Strano dall'alto della tua intelligenza. È da anni che sto addestrando Vasilka nelle arti del portamento. Mi sto anche insegnando a danzare e spero di arrivare anche a farla cucinare. L'arte della discussione, cucire, cucinare, anche l'arte della sintesi. La sto insegnando, forse quella non ce l'hai. Beh, direi che è perfetta, dovrebbe essere pronta ormai. E infatti sono a un buon punto e tra qualche giorno il suo promesso anni. Sposo verrà a visitarla. Dove erano le corde per il picchetto? No, facciamo la scorta a strada, dai. Ne ha bisogno. Vabbè, scordatevi. Il suo cuore possa finalmente trovare. Alla fine anche Palpatine ne aveva la scorta, ne aveva bisogno. Sì, faceva ridere. Il sollievo che da secoli sta cercando. Vabbè, gli chiediamo di vestirci con le tutte rosse. Ma a mio parere manca ancora una cosa per completare l'anima di Rina. Quest'unione. In realtà pensavo che, come insomma, ogni buona sposa, promessa sposa che si definisca un cuore, necessiti di un abito degno di questo nome. Dopo il vino, se l'abito, questo abito. Vuoi fare una cerimonia senza vino? Ma il vino ce l'avete? No, io sono stato. Ci sono io. Grazie Astenio. Basta, il nostro miglior amico indipendentemente da tutto il resto. Cioè. Come l'impressione di essere andato nel posto sbagliato. No, Ok. Io credo fermamente il Signore del Mattino mi ha illuminato con la sua infinita saggezza. Faccio che sia questo il modo per avrei mai il cancro che liberare questa terra. Voi potreste aiutarmi? Riuscireste a recuperare un abito da sposa? Arci, potresti tirare un insight. Io ho fatto 14 di iniziativa comunque. Insight? No, vabbè, forse meglio di 12. Ho vantaggio? Cosa stai facendo? Fare un insight per capire cioè, quanto è plagiato o pazzo. Dovrei tirarti questo dado e usare questo 1, ma siccome ho fatto prima il 5... Lui è convinto dalle sue parole e non può essere convinto altrimenti. Quindi sembra sincero. Lui crede in quello che dice. Basta dire sica. D'altra parte questa potrebbe essere l'unica chance per salvare Irina. Vardistan? Sì, forse potremmo trovarlo un abito. Che cosa stava pensando? L'abito più meraviglioso che possiate procurare. Di Sardi, non possiamo perdere una cosa avanti del di genere, deve essere tutto assolutamente perfetto. Dove consiglia di cercare, quindi? Voi l'avete visto un abito da sposa? Eh sì, nell'altro villaggio, di fatto, mi è tornato indietro. Vallacchi? Sì. Nella casa. C'è più. Quella che è andata a fare. Non c'è quella che avete provato ad appiccare. Non sapete all'interno cosa è rimasto. Come avete provato? Si pioveva di rotto. Una casa del Borgomastro. L'interno brucia, magari era brutto da sposa della Borgomastra. Quella è la stanza con lo specchio. Sì, della figlia di Vaktar. No, dove hai tirato giù tutti dalle finestre. Sì, e anche la sua, ma non era l'abito della figlia di Vaktar che doveva andare in sposa al figlio del Borgomastro. Era l'abito della moglie del Borgomastro. Ma gli serve proprio quell'abito lì, se no va a lui vi ha chiesto un abito, l'unico abito in tutto il regno che avete visto. Ma tra l'altro è già stato usato. Ma secondo me, rega, se venite da strada lui ce l'ha un abito. Sì, anche secondo me. O lo troviamo, dai. Lo troviamo. Bezzan va a morire. Bezzan si suicida. Bene, intanto che riflettete su questa cosa, direi che possiamo cambiare la scena. Bravo, agli altri. Bravo. Che sono lì che giocano a... Penso che ci sta riuscendo. Aspetta un attimo. Che mi ha resettato il cazzo di gioco. Non era appena arrivato a questo punto, quindi aspetta un attimo. No, in realtà sì, sono arrivato, l'ho anche finito questo gioco di merda. Vai. Bene. Ah, questo è bello. Abbiamo l'ultima mezz'ora. Già. Strad è fuggito attraverso il muro e vi ha detto che ci penseranno le mie mogli Con sguardo un attimo tra il preoccupato e le città. Che si è distrutto sta cosa. La prego, non respira più lui. Fad. Fad, ma c'è. Dov'è che stanno? Non qui. Tu. Siete lì nella stanza del banchetto che li guardate intorno. Buona questa cadrega! Non si mette il con l'altro gruppo? E però il battino è lui, tecnicamente il contrario. Siete lì nella stanza. La stanza ha due muri. No, guarda che ce l'ha descritto l'altra volta tutta la stanza. Sembra una tortura. Vabbè, oh, Rega, se non volete che Kata descriva, state fermi lì e uccidete tutti. Girate bendati. Andate da strade, cazzo di l'unica volta che non ci sono state descrizioni è quando o basta stare zitti, così la descrizione dura 10 minuti al posto di mezz'ora. Esatto, non c'è stata descrizione quando abbiamo ucciso tutti. Non c'è stata descrizione quando Vezza ha smesso di fare il paladino. L'unica volta che hai smesso di fare il paladino al palazzo del Borgo Massa abbiamo devastato tutto, non c'è stata descrizione. Era tipo, e poi in quell'angolo io lo brucio. Eccoli. Vai briga, ma le mogli sono gnocche, quindi? Non voglio sperare. Io spero che siano mature, perché ho bisogno di una conversazione seria. O magari gliela creato tutto il illumina tipo. La stanza. Ah beh. E nel soffitto sono vedete. Sono inquietanti e giusti. Ah, secondo nuovo. Sono lì a penzoloni queste quattro strada. Figure. Cioè, allora, no, secondo questa c'ha una maschera in faccia. E la lasciamo a naso. E questo qua viola? Nessuno fa battute sul fatto che la terza è di colore. Questo è apprezzabile, rispetto ai nostri canoni. Di solito è... Vabbè, è Asher. Cioè, chi cazzo è? Però ripeto, secondo è un uomo. Sì. Ah, sì. Quello viola, sì. E sarà tipo. Ah, ok. Non sono le mogli. Cioè, sono tre mogli e questo okay. Qua. Sì, ha una moglie che è un uomo. Può essere. No, potrebbe, che ne so. E Asher e le tre mogli. La tizia. Va bene, quindi compaiono all'improvviso. No, sono sul soffitto. Sul soffitto. Vedete. Come? Mi guardano. No, sì. O fa mostrare. Oh, sul soffitto. Come? Il tre mogli di Lord Strahd e. Pieno di discrezione. Oh. Non vi ha neanche presentato. L'unico modo per liberare. Non mi ha neanche presentato. Mi spiace, signore. No. È abbastanza triste. Io sono Asher. Sì? Quello dei quadri strani. Sì. Boh, no, è un di cioè, c'ha una palla in mano. Non dipingo da molto tempo. Ah. E con le proporzioni come ha messo? Effettivamente non sono mai stato molto bravo. E, siamo stati chiamati qui dal conte. Suppongo che voi siate il nostro spuntino per questa sera. No. No. No, quelli sono i loro amici. Abbastanza. Oh, ma è quanto godo che devo buttare il culo. Madonna santa. Oh, sono le finali del 2-2. No, abbastanza sicuri. Anzi, no, abbastanza siamo i nuovi servitori. No, siamo i nuovi alleati del vostro marito. Te lo sto a girare, Salla. Alleati. Non è da girare, la verità. No. Ho sacrificato il niente, però vabbè. Questo è un altro discorso. Una parola molto pesante. Il nostro compito a quanto pare è quello di convincere l'incarnazione di Tatiana a venire qua. Chissà se ci riuscirete. Vi auguro il meglio ovviamente, ma credetemi, non sarà una cosa semplice. Il nostro caro conte è da centinaia di anni che prova a fare questa cosa e non dite che l'ho detto, ma mi sa che è finita 2-2, sì. Ecco, le probabilità sì. Non sono assolutamente a suo favore. No, ma apprezziamo la sua dedizione, no, la sua tenacia. D'altronde è per quello che siamo che cazzo di suoi fedeli servitori. Solo la Juve può perdere contro me. Quindi ditemi, a quanto pare non le finali finirete nel mio stomaco questa sera. Non stasera. Sono un po' triste, sembrate due finali delle coppe. Beh, appetitose. Beh, può prendersi il nostro amico. Cioè, sono detto. Scio di stanno. No. Mi sembra abbastanza facendo mangiare Laz. Sì. Cos'è? Cos'è? Cos'è? Sto facendo mangiare l'as. Stai non facendo ti mangiare l'as. Sì. Io rimango. Cioè, ah, dai l'as come cibo. Ok, no, perché stai facendo mangiare l'as. No, Lord Strahd stava parlando, immagino, dandoci disposizioni quando si è incupito improvvisamente ed è scomparso. Sì. E ha detto che voi sareste. Cioè, le sue mogli sarebbero venute. In realtà, noi potremmo anche lasciare la vostra compagnia e andare a dirigerci verso la nostra missione se voi ci indicate la via più veloce. Oh, certo, sarete. Smettiamo di splittare il party. Sarete scortati. Guarda che merda, ora che mi devono mangiare, come vogliono unirsi a noi? Ma che vogliono mangiarci? Ma noi lo facciamo per voi, per darvi una mano, cazzo voi. Non sta modo di io con l'abate descrittivo. Proprio scorceremo da. Se tu prendi il manuale, c'è proprio il PNG abate descrittivo. Voglio speciale. Come esce era un titolo? Sì, ma. Mi è sfuggito qual è la sua funzione. Non ve l'ha detta. Lord Escher, Conte Escher. Culati. Messer Escher. Sì. Lord. Ma perché non l'hai fatto prima? Perché non ce l'avevo prima. Lo sono andato a prendere adesso. E no, si chiama mi dica, signor Atanas. Ah, piacere, Atanas. E con chi ho? Reis. Horas. Edcap. Ah, no. Horas. Dove ho scordato le buone maniere. E beh, io. Cioè, questi stanno facendo la vita mondana, un banchetto sì. Figo. Io più di offrirmi le prelibatezze del castello. Non saprei che cosa fare. Lui sarebbe tipo l'attendente. Avete l'idea che è un sottoposto di Strahd. Ma perché quando un giorno prenderà il posto di Strahd vuol già conoscere il suo esatto, staff. Voglio sapere un attimo. È un sottoposto di Strahd, ma non vi ha ancora. Ah, beh, allora dico Lord Escher. Noi, cioè, Lord Strahd non ci aveva. Non l'aveva nominata. Questa cambia. Lei sarebbe. Ma io non lo so neanche più che cosa sono. Passo i giorni, i mesi, gli anni, i secoli in queste cripte. È una sala. Il nostro caro Lord ormai completamente assorbito da questa sua ossessione, non ci degna neanche più di attenzione. Ma noi continuiamo a servirlo, d'altronde. È la giusto che abbiamo sia. Scelto. Come logico, non vita che abbiamo sì. Scelto. Come giusto che sia. E, bene, volete alloggiare qui ancora? Oppure? Beh, ci dica lei se la via è lunga e tortuosa, noi potremmo anche alloggiare qua per la notte e ripartire domattina. Non so, non saprei come interpretare quello che è successo a Lord Strahd. Oh, beh, ogni tanto ha i suoi momenti, meglio lasciarlo da solo in queste occasioni. Okay. Potrebbe essere pericoloso avvicinarsi. Beh, allora noi partiremo verso la nostra destinazione. Sì. Se avete appunto una scorciatoia, una via, una guida. Dei cavalli, qualcosa da fornirci. Sì. Dai, basta, mazzarli. Vi accompagneremo. Un teletrasporto. Un teletrasporto. Vi accompagneremo dove siete stati, da dove siete arrivati. Perché la musica aiuta. Capito? Che dà il tempo giusto per saltare alcune cose. Le tre moglie non hanno un nome. Sì. Ed è anche molto lo chiedete. Sì. No. La prima si chiama Sasha Ivilskova. Qual è, scusa? È quella con la maschera, la nera o l'altra? Sto cercando di capirlo. È il caso di dire una a caso, non vale l'altra. Ma ho perso la palla. Vabbè, vai avanti. Petro. Fai in fretta. Porca però. Ho cliccato. Io non devo cliccare. Qui. Sono le presenti bianche nei vedini di stare tese? No. È tipo straccione, ma di Elis. Ma quel fa male. Tipo tutto quello che viene verso di te fa male. Quasi, sì. Tipo qua con la musica lui sai più o meno poi quando prendere scatto. Il tempo quando fa l'incarnata. Sì, non ricordo. Più o meno. Eccola qua. qua, allora. Perché in base a Sasha Ivliskova. Adesso probabilmente esatto. Non sai quante volte ho fatto questa. Madonna, quanti cazzo sono? Patrina, Sasha. Arci, non sei venuto manco a Marsiglia. Ma sala, dov'è Marsiglia? Dov'è Marsiglia? In Francia. Bravo, dov'è Copenaghen? In Francia. No. È in Francia Copenaghen? No. Sì. L'ho spostato da poco. No, sì. Copenaghen è Danimarca. Sì. In un paese di persone. Il partner è diverso ovviamente per ognuno. In un paese non di stronzi. Le cose si sommano perché sì, può mettertelo nel culo, te lo mette nel culo. Uff, è morta. Direi. E invece no. Pagliolini di 18 anni comprano e vendono le martine. Oh, Ludmilla Vilisevic. Anastasia Karelova. Se non sono tre. E dai. No. L'altra cancella. Oh, no. Non è lì. È un altro nome. Tipo adesso se ne colui Ludmilla. Anastasia. Te lo può mettere nel culo questo gioco. Anastasia. No, e Volenta Popovski. Volenta Popovski. No, beh, sì, vabbè, sì, no, ha anche una trama in tutto questo, è proprio sì, sì, sì. Tu hai venduto la tua anima al diavolo e ora stai disperando le prove per il diavolo per riprendere l'anima. Ognuno di questi vedi ti dà un assegno, cioè che è la loro, il loro contratto del della loro anima. Deve essere difficile essere sposati a una persona che è assorta costantemente. Le riflessioni livelli più facili a volte, più o meno, ma sì. Solo la sua presenza basta come ricompensa per le nostre sofferenze. E prego, vi accompagnerà Ludmilla, che ne approfitterà per sostare anche lei a Ballacchi e portare i suoi i suoi omaggi a Lady Vactor. Qual è Ludmilla? Quella con la maschera nera o un'altra? Ludmilla è la più antica delle tre, okay. Ed è l'altra. Vi riaccompagnano giù nella sala del teletrasporto e se vi ricordate c'è questo calderone con le gemme. Prendono quella verde. Non ce n'è tipo solo una in ogni ci sono 7 pietruzze. Sì, una per ogni luogo, dico. Sì. E quando vi dice quando siete pronti, ditelo. Ci siamo. Prende la pietruzza, la lancia nel bracciere, fumo verde vi avvolge e quando avremmo potuto fare siete nella equipaggiamenti. Chiede, siete nella stanza del fabbrica Bare. Ah, quindi siamo tornati in quella dove siamo partiti. Ok. Questo posto è familiare. Insieme a voi c'è Ludmilla. Ed è notte, immagino. È sempre notte. E vi dice potete usare la carrozza che vi era stata riservata. Se volete, vi porterà dove desiderate senza che alcun male vi accada. Comodo. Non dar fuoco ai cavalli. No, fuoco ai cavalli. Fuoco alla carrozza e morte ai cavalli. Sicuro, catta. Ogni tanto posso confondermi. Dare fuoco agli abiti da sposo. Se avete bisogno di me, sarò da casa Vactor. Ah. Vuole che l'accompagniamo lì per tanto. No, sulla strada. No, beh, non era per quello. Era gentilezza, però. Vuole corrompere. Voi concentratevi sulla vostra la missione che il mio caro marito vi ha dato. Sono ovviamente sicuro che voi non vogliate deludarlo. Assolutamente no. Bravi. Allora bene, ci congediamo. È stato un piacere, signori. Speriamo di rivederci presto. Speriamo vittoriosi. Stasera. Speriamo di non finire nel menù. Pasto, esatto, nel menù. Vabbè, prendiamo la carrozza. Clappet, clappet. Andiamo verso l'abbazia, perché noi sappiamo che loro sono andati all'abbazia. Esatto, in teoria, no? Verso l'abbazia, sì. E tranquillamente, okay, andata. Quindi in teoria il The Split Party sarà a metà strada. Ah, perché voi state tornando indietro? No, forse, però l'idea comunque di andare a prendere il vestito, quindi comunque andare via da lì e da qualche parte andremo. No, non so in che direzione è, però il vestito. Beh, guarda che non andiamo a prendere il vestito, però non so, noi non ci... No, noi ci siamo riposati, sì. Noi in realtà sì, noi stiamo andando. Ma noi abbiamo dormito una notte intera, siamo andati lì. Noi abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo passato qualche ora con Strad, teletrasporto, e adesso siamo qui. Quindi in realtà probabilmente vi raggiungiamo forse anche all'abbazia. O alla città. Sì, boh. Dipende quanto è durato questo viaggio. Considera che voi non avete riposato. Sì, ma voi siete anche a piedi. No, abbiamo la carrozza di Strad. Ah, ve la lascia? Sì. Ve la lascia. Beh, ci fa arrivare dove vogliamo. Ah, ok. Vabbè, comunque noi non so cosa fare. Dovete comunque riposare, perché voi non avete riposato. Bene. Gli altri cosa vogliono fare? Se volete, l'abate vi fa fare un giro dell'abbazia. Facciamo un giro. Giunta l'ora di ammazzare sta faccia di merda. Allora, se facciamo il giro dell'abbazia significa che ci descrivi tutta l'abbazia andando prima in giro. Bez. Lo ammazziamo? Per me ci sta. Tecnicamente voi non avete riposato, non avete recuperato ancora nulla. No, non possiamo ammazzarla adesso. Come mi hai riposato? No. Sono fuggita, a parte il 5 punti di tanto. Perché non avevi perso nulla nella cosa. Beh, ma Evezzo non ha incantesimi da un sacco. Tu fai incantesimi, Evezzo? Vabbè, saremmo stanchi dal viaggio, signora Abate. Potremmo riposare e incontrare la circolazione domattina. Certamente, okay. Prego. Vi porto... I cavalli vanno da soli, vero? Quindi noi possiamo anche dormire dentro la carrozza. Sì, ma noi in teoria siamo... Che servizio! Prima classe. Devi tirare su schizofrenia, perché sono gli sgozzi, eh. No. Una volta che abbiamo deciso che Strad non è più il nostro amico, non ha più nulla contro i suoi cavalli. Va bene, vi porterò agli alloggi, ma prima un giro dell'abbazia. Tu serio? Per arrivare agli alloggi dobbiamo fare un giro dell'abbazia. Sono in fondo. Dobbiamo attraversare tutte le stanze. Sono nella cappella. Vedete. Vabbè, questo? Dai, vanno a dormire, poi noi intanto arriviamo, immagino. Più o meno. Allora, tutto bene? Ah, no. quando arriviamo? La mattina dopo? No, è molto più vicino. Ah, ok. Ma durante la notte? Alle prime luci del nord. Tra l'altro abbiamo i cavalli di Strad. È vero, che non possono incontrare Irina. Cioè, che non possono incontrare nessun pericolo. Esatto. Non saremo inseguiti da Torvedi. Fammi vedere. Ciao, ho passato bene la notte. nello zoo. Nello zoo esperimenti che nazisti biogenetica. Aspetta un attimo. Perché prima... Porca puttana. Io entro. In realtà è cieco. Prima di cazzo, che occhi. Volevo chiedere una cosa. Questa era una finale inglese. Sì. Perché? Sì, secondo me di entrambe le corse. 17. Sarà lì, lasciamo fanculo se domani l'Arsenal perde. No, sì. Domani l'Arsenal perde male. Oh merda! No, dico, secondo me la. Ne ha morti tutti. Entrambe le finali. Dracarys! Bucio le culo! Dove è andato questo? Morto di Dracarys, guarda la carta. Voglio parlare sì, con finisce con Dracarys. No. Beh. Però sì, guarda. In un certo senso. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo di spoiler, quindi... Beh, non è spoiler, non è lato. Allora, volevo chiedere a Irina cosa pensava di tutto questo. Ma non dorme mica con te, Irina. Okay. Illuso. Illuso. Tu sei lì da solo mentre lei è lì che si gioca con la sua, col suo clone. Film. The movie. Giusto, devo, movie devo the movie. Il giro che fate. Mi è sfasciato il telefono. Non lascia posto di. Di. Che si fa? Ci di pittori. Testa i prodotti. Cazzo, la telecamera. Sono treni della 5? Sì, quella non l'ho messa bene. Sì. Interessante. Guarda, tre della 5, non vai a tre delle puntate, ragazzi. Chi che scrive? Ah, Jacopo. Ah, che mi manda i film. Non ci parlato che c'è Tiri. No, sì, me lo devo dire. Allora. Comunque, se essi da quando gli hanno tagliato i capelli, non riuscite più a farsi ricrescere e essere figo. Beh, intanto si sta scopando tutti lo stesso. Beh, questo fa sempre fatto. Sta scopando quel palo. Quel culo di sì. Allora, lui vi porta al piano di sopra. Dove. Dovete sapere com'è il piano no, di sopra. No, stamattina però. No, la sera. Si sta portando al vostro alloggio dove dormirete. Però prima ve lo fa vedere. E vi spiega. Al questo piano è un di quadro sopra c'è questa stanza con un sacco di arnesi, un tavolo e un grosso tavolo. No, guardi, io proprio una stanza con al massimo un letto. Attraverso il letto, un sacco di arnesi. Il letto però è un ghirigo. Esatto, puntate qua sopra. Qui c'è un tavolo con un telo nero che copre il qualsiasi cosa c'è sopra questo tavolo. Perfetto, ottimo. E sopra il telo nero c'è c'è una campanella. E vedete l'origine della musica. C'è scritto gli esperimenti si fanno qua. Minchia. È questo mino. È molto basso. No, ha un violino nella, il bambino, no? Nella mano che sta suonando la sua mano sinistra, che è quella di un'aragosta. Cosa? Aspetta, serio? E la sua faccia. Io preferirei dare Irina a strada. Chi dorme adesso? Di merda. Così tu sei sveglio e dormo. Ha un paio di cornini di capra. E la ha una seconda testa più piccola. Sì. Con al posto dei capelli delle squame. E quando vede salire smette di suonare, la testa comincia a piangere e lui impreca e dice no, dormi, ti prego, dormi, e continua a suonare per cercare le che bel posto, rega, complimenti, lì sarà sicuro. E non hai un'altra stanza, signor Abate? Farete un sonno ristorato. Dobbiamo dormire proprio qua. Dalle bottiglie vuote che ci sono per terra e dal Garrosh, credo che apprezzava il tuo rossato. Dal modo in cui cammina e di cui parla, capite che è ubriaco. Sì. Questo omino. Anche il bambino. Ma anche il bambino sono bianco. Oh, hanno due stomaci. Mi sento in colpa per quello che abbiamo fatto a questi creature. Però è meglio per ma strada è così buona. Io glielo chiedo seriamente. Quindi questa è una delle creature che tu hai salvato. O meglio, forse due. No, oh, lui è Clovin. Il mio servo più fedele. Plovin, viene il Solin. No. È andato, scemo, per favore. Fai 12? No, ha recuperato il mio regalo del dado. Di 4. Quello che è caduto. Sì. Faccio 4 pezzi, tu dormi tutta la notte con quel tizio che suona. Ok. Da questa stanza uscite sulle mura. Storpi e migliori. Dove vedete gli spaventapasseri che vedevate da giù. E vi porto dalla parte opposta dove c'è una camera con diversi dove, quelli che probabilmente erano le, come si dice, gli alloggi, cioè l'alloggio, le guardie, non, quando sì, la caserma delle guardie quando c'erano, esatto. Okay. Ci sono dei spaventapasseri che dormono. Aprite la porta. È un colpo di classe. Sì. E l'abate vi dice: ah, passerete, non siete gli unici ospiti che ho questa sera. Cioè, che strano. Insieme esatto. Ci sono anche Strad. Ah, deve essere altri 3 giorni, me l'ha detto. Strad e due suoi amici, che sono loro due. Spero che per voi non sia di disturbo, ma mi ha chiesto alloggio anche questa persona, che spero sia. Cambia la stanza, a me? Sì, però andiamo in una stanza comune con un altro. C'è un'altra. Ah, Vedete, questa sembra donna normale. È Smeralda da venir. Esatto. Da venir. Sembra quasi normale. Sì. Non ha cose strane. A parte, notate che ha una... In bella vista. Una... un'accetta e una spada in mano per andare... Adesso non le ha, ovviamente. Per andare a letto. Le due gambe. Una delle due gambe prostetica. Prostatica, no. Una gamba. Infatti c'è la gratta sotto. Ah, è una sacca. Rimezzo con la merda che c'è. Che fa che sì, ha una gamba. Ha una gamba di legno. Una gamba di legno, Jarmo. Massimo non c'è più la regola. E un una gamba di legno. E una andate supplementare. Se voglio ad avvenire. Alla prossima volta in trasferta, magari come quelli che. Mi sarebbe stato 3-3 finale, sarebbero andati supplementari. E hai capito, gamba di legno? Pez. Vuoi far venire? Gamba di legno. Ciao. Se hai voglia di venire, vai. Ciao, vai. Dovremmo interagire con lei, ma non è quello che ma vorrei. No, dobbiamo adesso andare a dormire. No, dobbiamo dormire. Cioè, io vorrei in realtà pianificare la morte dell'abate. E non posso farlo se c'è un altro personaggio del cazzo che non facciamoci due balotte. Signorina. Buonasera, signor Patk. Piacere. Ma può chiamarmi Patk. Esmeralda. E dove ha lasciato il gombo? Nell'altra stanza che suona il violino. Ah, ok. Esatto. Cioè, sono imbarazzato dalla scelta. Cioè. Come mai in queste zone a dir quanto strane? Strade. Oh, io mi sono persa. Trovavo. Oh, brutto però questo 22 su intuizione. Si è persa e si è trovata nella battuta. Bugiarda. È sbugiarda. Merda. Gol. No. Questo è un altro occasionissimo. È falso, no? Non si è perso. Cioè... Hai già dire che il loro gol nel secondo è stato un segno come per dire aspetta però che un bel fatto di Mora in realtà sinistra la tenuta persa, lì, persa. Sì, ma certo. Cioè, aveva praticamente in mano il portiere. Sì, che sì, no, è vero però bravo a tenerla in mezzo a la parte se ne va. E appunto vi dà la buonanotte. Buonanotte. Per qualsiasi cosa chiedete a me. Vale il cronometro. Vale il cronometro. Era l'ultima azione. Quello che suona il violino. Ok. L'ultimo istante. Ok. Quando se ne va vi dice devo intuire che pack. Anche voi siete capitati da queste parti, non sapete più come uscirne, vero? In realtà come? Te l'ho detto? Hai detto anche voi volete ammazzare brutalmente il lombardo. Sì. Sì. Davvero? No. Cos'è che ha detto? Sì, è così. Dalle vostre facce deduco che anche voi siete capitati da queste parti e non sapete più come venirne fuori, immagino. Sì. Inteso in un certo queste senso, terre. Sì. Beh, la verità. Intende a Barovia. Sì. Non credo che l'abbazia sia. Sì. In ma realtà, sì. Lei signorina da quanto è qua? Smeralda. Qual è? Deduco che lei è una guerriera, visto che le ha. Beh, diciamo che so badare a me stessa. Ha sentito dall'incendio. Da quanto tempo è qua? Ha sentito dell'incendio. Sono entrata nelle nebbie circa un mesetto fa. Perché ero sulle tracce del mio mentor. Il cacciatore. Oh, Horas. Chi? Etlaboras. Io. Il cacciatore. Il cacciatore. Il cacciatore. Di chi sei? Mi scusi. No, è una pirata. No, è una piratessa. Di chi è il suo mentore? Strano. Oh, il. È un bellissimo. Rudolf, il mio caro vecchio. Il produttore di vino. Rudolf, ha un cognome? Van Richten. Ah, Rudolf Van Richten. Lo conoscete? No. Ah, è quello che abitava. Certo che lo conosciamo, Rudolf Van Richten. Sono sulle sue tracce. Speravo di incontrarlo qua. Avevo sentito che era venuto in queste terre con l'intento di liberarle da questa maledizione. Cazzo, sarebbe però servito un bardo. Lui è il cacciatore. No. Vabbè. Per convincere anche un chiede. Ti ricordi che c'era una volta che Strada voleva mettere. Sono tanti personaggi che ci servono. Ciao, no, perché io ce l'abbiamo. Non è cacciato. Tu gli hai detto il cacciatore. Chierico, non fa il cacciatore di Sharma per ma è il portare Irina. No, io ce l'ho. Ah, è un cantino di Sharma. È il cacciatore. È chiaro che Ah, perché tu sei... Se tu gli dici il cacciatore, lei pensa a quello che va nel bosco a prendere i cervi. Però lui ce l'ha, e cinghiali. Ce l'ha spacciato come il cacciatore. Perché io non è che posso convincere molto Irina se non tipo ficcandomi una spada. Non il cacciatore, basta. Ma mi sa che Sherman un cacciatore di vampiri? Ah, vabbè, solo per farla andare in zombie. Quindi è il cacciatore. Sì. Oh, no, adesso è Inspiration, pezzo di merda. Non ce l'hai. L'ha usata. No, pensa, se avessi detto l'ha sì, l'ha usata, detto, allora toglia. L'ha usata per prendere tempo sul matrimonio. L'ha usata saggiamente. E non te l'ha ridata, riprenditela. Oh. E ora toglila. ora regala la scea che la spreca. Esatto. Tieni, scio, di la, solito... la uso per far star zitto scio. Le inspiration degli altri servono a me per solo sprecarle. No, in realtà ce l'ho anche io, non mi ricordo perché. Allora potremmo essere sulla stessa barca. Piratessa. Oh. Perché io non lo so. Sì, Sean Persson, no, ce l'avevamo per il piano alla chiesa, che è andato poi come è andato. Scusa, canta, io sono il mio gioco di ruolo a credo di aver sentito parlare di lui. Oh, bene, che informazioni avete? È morto. Sappiamo che lo sarà presto. Il capo di queste terre voleva precettarci per cercarlo e ucciderlo. Voleva che dessimo la caccia al cacciatore. No, quanto è bello che tu non devi fare nulla di fatica, il lavoro ti viene proprio servito su un piatto. Aspetta, però con tanta descrizione. Ah, questo di sicuro non semplifica le cose. Tu hai idea, di dove si è diretto? Che brutto sto film. Dici? Rudolf. No. Cioè, sì, l'avrei trovato. Direte nel senso, sei finita qua perché ti hanno detto che in questa, mi in questa zona... Sì, hanno detto che era venuto qui a Barovia per liberare questa terra. Barovia è grande. Qua. Già. Questo qua è una specie di Chernobyl di Barovia. ho visto. Anch'io speravo di venire qua in cerca di un luogo sicuro e ho trovato questa situazione. Ma l'abate... se anche tu stai per livellare, potremmo utilizzare. L'abate però mi ha detto che tra qualche giorno il conte farà visita. Tra tre giorni posto. Esattamente. Non mi chieda come lo so, ma lo so. L'ha detto l'abate. Ve l'ha detto l'abate. La mia intenzione era approfittarne per prenderlo di sorpresa in un luogo lontano dalla sua tana. Sembra un bel piano, ma il conte... molto al di sopra delle nostre capacità. Delle vostre, sì, probabile. Oh! Oh! Succhia! Si vede che lei ha un master che la fa livellare. Succhia! Si vede che lei ha un chissà cosa fa con quella gamba di legno. E qual era? Magari si sopravvaluta come Capitan Marvel. Avevo però ha vinto la fine. Lei sa che... Sì, ma non permetto se vuoi. Sto disperando che chi non ha visto cercando questa donna. Io non l'ho vista. No, sono... No, piacere. No, è che lo vuol vedere solo in francese. Piacere, Irina. No, si guardano, si piacciono. L'abate inizia un intermezzo lesbo. L'abate, a quanto pare, con l'altra Irina. La sua follia ha creato una copia più o meno verosimile di Irina. Sì, ho visto. Questo, è per questo che Strad è stato invitato qui per conoscere la sua nuova sposa. Wow! Così la dice idea, è letteralmente tre ore solo, che direi da solo. Tuttavia noi abbiamo portato via Irina proprio da Strad. Tuttavia Strad invece di andare di persona ha mandato persone per farlo, quindi per il suo piano di merda idea sarebbe quella no, di cose diverse. Avrei avuto questa idea. Vabbè, noi stiamo andando lì, quindi in realtà Strad non ha nessun motivo per andare. No, lui ha questo impegno. È stato già da prima. Sì, però visto che stiamo andando noi, è inutile adesso che ci vada. Voi adesso ci andate per fatti vostri. Lui ci verrà comunque perché ha questo impegno. Voi ci state andando perché voi sapete che lì. Beh, sì, gliel'abbiamo anche detto. Gliel'abbiamo detto. Okay. detto e abbiamo detto che noi andiamo a prendere Irina. Sì, quindi adesso ma lui è stupido che lui ci vada. Ma lui ci va per onorare l'ospitalità del suo amico. Sì, nel ma... manicomio. Vabbè. Esatto. Stavo pensando. Lascialo, sono cose da nobile. Esatto. Stavo sono cose da un'avventura scritta. Molto piano, senza farmi sentire, ovviamente. A chi? Ai presenti? Ok. O non farti sentire la presenti i nostri va bene cioè scusi è eventuale parla tra sé e sé cosa stai dicendo? Eh? Il mio concetto era... Io mi chiamo Esmeralda, voi? Patrick Angelo. Vardistran, piacere, Vardistran. E tu? Ti vedo un po' sciupato, Vardistran. Cosa è successo? Io sono una vita difficile. Mi scrivo 20 questo tutto. Ma tu hai ancora la faccia da vecchio di merda? Un po' sì. E diciamo che queste terre non mi stanno facendo bene. Io sì. Molto bene. Anch'io ero invecchiato, perché ho perso anche uno. Chi che mi aveva curato l'AS? Stavo... Chi che mi aveva curato? Non avevi fatto nessuna... Io ho un negativo. Sì. Mi aveva curato l'AS? Non erano quelle ferite inferte dalla progenie? No, io ti avevo curato. Sì, qualcuno ti ha curato, sì. Può darsi. Siamo venuti in questo luogo sperando che potesse essere... Sì, t'aveva curato lui per toglierla da lui. No, penso che fosse l'altro. Però ora mi ci rendiamo conto No, una volta è stato lui che ha curato prima uno di noi. Si è preso il punto negativo, allora ha curato tipo te. Me ne sono accorta. La mia idea sarebbe quella di sottrarre questa creatura a questo luogo. Basilica. Una foto, E... provare a portarla da Strade. Ma lo stai dicendo a lei direttamente? A lei. Ma ecco un quesito. Scoprite chi è il robot. Non so bene cosa fare con Irina nel frattempo, però ci pensiamo. In questo modo. Che hai parlato a nome nostro, ma non è una mia idea. Io non lo voglio fare. No, ha parlato a nome suo. Ah. La piano di gara quale sarebbe esattamente di scrivere un po' di lui? Sicuramente a questo punto cercare informazioni sul tempio che era il progetto originale, era anche il mio progetto, sperando di poter scaricare Irina qua, ma non possiamo scaricare Irina qua se tra un paio di giorni e viene ricevuto tipo bella Strada, sì dai il tempio, che hai tempio? Visto l'ultima crozza che ha fatto di Battista? Pare no, non che l'hai sia visto? Cioè, visto solo il pezzo su un luogo Salvini. Non ben identificato, non dove Battista. Non un misterioso tempio dove trovare informazioni su come sconfiggere Strand. Già, un elfo pazzo ce ne ha parlato. Ah, e dov'è questo? È in città. Ci ha aiutato a entrare. È un mezzo mago. Potrebbe essere sì. Utile. Certo. Solo che forse l'unica possibilità è frustrante, non ci fa livellare, ci lascia tristi così e aggiunge un PNG forte per umiliarci ancora di più. No, PNG forte va bene. Appunto, però, cioè, un po' livellare noi no, aggiunge il PNG forte per umiliarci. Adesso non ammazzo il PNG forte livello. Per cui... Aspetta che arrivi la cavalleria. A cavallo. Però abbiamo bisogno assolutamente di riposare, nel caso tu saresti dei nostri per questo piano. Allora... Questo qua che è il numero della Madonna. Il mio piano è quello di tendere un'imboscata a quella carogna qui che è lontano dal castello. Ora, forse voi non avete molta esperienza, al contrario di me, nel il problema è che Strade potrebbe essere qua prima, oppure... Cosa te la fa pensare? Il problema è questo, il nostro gruppo era più ampio. Racconta cosa è successo. Anche se conoscendo questa terra, purtroppo lo immagino. Siamo stati a Vallacchi. Non so se hai avuto l'occasione. Ci sono passato, purtroppo, come vedi, non sono ben accetto. Diciamo che prima del cambio di gestione, però. Piccolo dettaglio che non vi ho ancora detto. È una vistana. Esatto. È una vistana. Ce lo dice adesso. Sì. Cioè, dopo che io le ho detto tutto, dici che era vistana. Però non è vestita come una vistana. Catta. Catta! Cioè, magari non glielo dicevo ste robe. Tranquillizza dicendo. Ti sei accorto adesso che sono una vistana? È infinito. Non faccio parte delle tribù di questa terra. Pare che molte siano devoti a Strade. Lo so, infatti, io gli ho. Diciamo, ho approfittato della loro accoglienza e ho, diciamo, preso in prestito qualcosina da loro, per cui è bene che non mi vedano. Comunque, vabbè, queste sono ore disperate. E il discorso è questo, noi fummo a Vallachi, che era in balia di questo borgomastro totalmente fuori di testa, nella speranza di riportare ordine nella città. Sì. L'abbiamo destabilizzato, ma questo in realtà ha permesso purtroppo a Strada e ai suoi alleati di dominare, di estendere il loro dominio. Potremmo chiedere un esercito di progenie. A quel punto la nostra unica andare alla morte, come hanno fatto terzo tra di Irina era a cavallo ingannarlo. E con siamo riusciti. Beh, siete riusciti a ingannare Strada. Wow. E invece non è vero. Abbiamo guadagnato del tempo. Invece l'unico che è stato ingannato sei stato tu. Ma tutti loro furono ingannati. Per portarla in salvo qua, esatto. Dove speravamo fosse un luogo sicuro. Allora non siete gli ultimi arrivati. No. Metà del nostro gruppo però a un certo punto ha avuto un ripensamento ed è tornato indietro. Forse accecati dall'avidità. Non è andata così. No, forse. Non è andata così. Però non dare quello che vuole. Siamo tornati indietro per darvi tempo per andare avanti. No, voi siete tornati indietro per prendere il medaglione. Questo sì. È quello che ci avete detto prima di vabbè. Partire. Non è la stessa cosa. Forse accecati dall'avidità. E cercare anche di prendere tempo. No, di prendere tempo. Non forse detto. Accecati. A me avete detto sei tornati indietro per questo. Torniamo indietro a prendere il medaglione. Forse accecati dall'avidità, forse perché pensavano fosse l'unico modo. King. Tuttavia adesso sono solo due possibilità. O sì, era la risposta esatta. Sono morti. O peggio. O peggio hanno la scritta. Il nome di Rambo qual è il gioco? In entrambi i casi sicuramente Strad saprà dove ci siamo recati. Cosa che magari sapeva, che cosa che comunque sa in ogni o magari caso. Abbiamo preso il medaglione come abbiamo detto. Poiché sono certo, anzi, che lo sa, visto che si è palesato con un sacco di presagio in cielo quando siamo arrivati. Ah, ecco cos'era. Esatto. Di conseguenza, siete stati voi, ma che cosa è successo? Di libro che scrive Stephen King. È vero, anche io non saprei, nel senso che presso la fonte a quanto pare un fantasma del fratello di Strade è apparso a Irina e dopo però è tornato a scomparire e dopo poco Strade l'hai glissato sulla parte in cui tu sì, ma tutta sta storia è storpiata dal suo punto no, di vista. No, ma è normale, non c'è problema. Sta raccontando lui. Esatto, sì. Sì. Ma deve dire la verità. Esatto. Cioè, deve dire la sua verità. No, vabbè, posso anche dirlo. Ha allungato la mano, non sapevo... No, ma racconta quello che vuoi. No, vabbè, cioè, ma non è così rilevante, semplicemente. Sì, sì. Non è così, è che non per è così te. Sì, per me non è così. Nel senso, ok, che poi se lei toccava vinceva, e infatti, e Strad moriva, no, che cazzo ne so, non lo so. E infatti ti stai andando a ragione. Non ne ho idea, cioè per me è apparso e poi è riscomparso, tutto lì. E infatti? Comunque, vabbè, ha allungato la mano, Irina sembrava attirata, io l'ho dissolta perché onestamente in questo luogo fidarsi degli spiriti non mi sembra la cosa migliore. L'ho dissolta. E poi si è scomparso. Dopodiché però è apparso Strada in cielo e noi siamo venuti qua. Salvardi Strada in cielo. Di conseguenza lui sa sicuramente che siamo qua e probabilmente i nostri amici ci hanno tradito, oppure più probabilmente sono stati torturati alla morte. No, magari abbiamo preso il medaglione e stiamo tornando, come abbiamo detto. In ogni caso, Strad sicuramente si recherà qua. È prima quello quanto che spero. Possibile. Sì. Adesso noi entriamo, Strad ci ha mandato, non verrà mai. Pensavo però forse potesse essere una buona idea magari anticiparlo. Non sapevo come si chiamava. Eventualmente con una cosa del genere, portando... una creatura del genere, facendogli credere che sia Irina, potrebbe essere, diciamo, dici che ci può cascare. Certo, ho sparato anch'io. Quante altre speranze abbiamo? È totalmente identica finché non parla. Sì, finché non parla e non parla chi la copia di Irina, dice. Beh, il golem non sapeva che non parla. Boh, era lì tipo aveva lo sguardo perso nel vuoto. Esatto. Però sì, non ha spiccicato però. Magari insert coin e parte. Il golem ci deve inserire il bigliettino in bocca al golem, poi fa quello che vuoi. magari se siamo fortunati ci casca e abbiamo la possibilità. Beh, oppure, di... oppure date a stradirine e tenete. Perché tu dici che lontano dal suo castello è meno forte? È più vulnerabile. Quindi perché ti stavo dicendo appunto, dalla mia grande esperienza di cacciatrice di vampiri, sì, che una volta sconfitto un vampiro deve ritornare nel suo luogo di riposo entro un determinato lasso di tempo. Se non riesce a fare questo viene distrutto. Merda, si vede che è un tipo in gamba. Ma quanto tempo? Purtroppo non ho avuto modo di cronometrare per, queste ma cose. No, sconfiggerlo, però c'è un ordine di grandezza. Cioè, non abbiamo avuto la sensazione che lui qui possa fare, cioè lui qui a Barove possa fare veramente quello che gli pare. Quello è vero, ma sicuramente la maggior il posto in cui lui è più potente in assoluto è il suo castello, è più lontano da quello che quindi che cosa suggerivi di fare? Perché qua dobbiamo non solo affrontare lui ma anche la Batte, che è subito alleato a quanto pare. Ma non mi è sembrato veramente quindi un lei suo affonderebbe una barca? Sì. Con qualche incantesimo cosa cercare loro, sapere che fine hanno fatto loro, perché noi siamo ma noi adesso arriviamo, voi andate a dormire, ma che ne sappiamo, ma sono passate poche ore, ma cioè sono passate esatto, 4-5 esatto, ore per cioè, voi ci avete messo sta più tempo a però fare il viaggio, però la curiosità, visto che adesso noi dobbiamo andare a riposare, magari lui intanto può mandare un qualcosa mentre noi dormiamo che vi viene a cercare, sappiamo, abbiamo novità. Sì, capito, ma cioè, per voi sono passate 4 ore, siamo in linee temporali diverse, noi stiamo ancora al villaggio a dormire ancora, stiamo ancora aspettando. Sì, sì, sì. Radio. Temporali diversi. No, in realtà no. Però, cioè, però loro ci hanno messo molto più tempo a fare il viaggio rispetto a quello che noi sì, abbiamo. Ma non tantissimo. Cioè, no, nel senso che loro si, cioè, si aspetterebbero. C'è un certo sfalsamento. No, cioè. E quello che dico io è che loro si aspetterebbero che noi ci mettiamo più tempo di quello che in realtà ci metteremo ad arrivare. Quindi è tutto sì, okay. All'interno sì, dei io tempi. In realtà mi aspetto che arrivi Strad con voi. Vabbè, ok. Strad deve arrivare tra 3 giorni, mi ha detto la base. Sì, ma la mia idea era che arrivi prima. Vabbè, comunque, mandate a dormire. Ma lei quindi cosa dice? Appunto, approfittando del fatto che è stato invitato qui, l'abate, da quello che ho capito, in realtà lui crede di poterlo liberare, non è al suo servizio. No, però... chiaramente è stato plagiato. Diciamo che non è, precisa propriamente lucido. Inoltre dicono che sia qua da una centinaia di anni, è giovane, più penso. Che sì, è chiaro che non me la racconta neanche a me, ma non penso sia sua intenzione raccontarla a nessuno. Però non è un vampiro, altrimenti me ne sarei accorto. E fa tutto quello che fa una persona normale. Quindi è qualcos'altro. C'è da dire, costruisce creature. C'è da dire a vantaggio. Mette insieme animali e persone. No, questo personaggio è quindi c'è come le progenie magari che hanno un contatto diretto. E qui non c'è, quindi in realtà Strad. Vabbè, riposiamo, vediamo se magari domani scopriamo qualcosa sul tempio. No, cioè secondo voi sì. Ok. In teoria sì. Abbiamo detto voi, certo. In realtà non sappiamo quanto è in contatto con Irina, però se lui in realtà sa sempre dove è Irina, possiamo nasconderci finché cazzo ci pare. Comunque lui sa benissimo se siete lì. Vi ha proprio visto. Infatti la nostra idea prima di arrivare qua era arrivare. Ma non c'è anche tipo teletrasporto moglie. Cioè, in realtà una delle cose la notte facendo i turni di guardia. Uno dei calderoni diceva questo dove... ti porta la moglie. Sì, però l'idea mia sarà o la tomba originale, diciamo. Vabbè, comunque sia. Dato in quella stanza non ci sei mai stato. Andate noi dormiamo, a però facciamo i turni di guardia. In quella stanza tu no, non no, ci sì, sei sì, mai sì. Vanno a dormire, ma fanno i turni di guardia. Sì. Sì. E... cos'è sta roba? Durante la notte noi arriviamo. La passate sentendo... tutti impettiti. I suoni più disparati, i versi, le urla, più disparati. Versi e a un certo punto dire... sentite come sono io e partite con la vostra carrozza e vi state avvicinando alla città. Arrivate fin sotto le porte con la carrozza? Sì. Ma sì, già non stiamo a pensare. Magari che... questo pensa che sia la barca. La carrozza c'è scritto qua vive Strad, c'è la targa di Strad. È abbastanza riconoscibile. Sì, c'è la targa, ha presente lui perché c'ha la targa. Esatto. Nessun altro una carrozza così in tutta Barovia. E allora... ci fermiamo a... un po' prima. Va bene. Arrivato. Accarezzo i cavalli prima che parta. Con la lama... No. Dico, siete stati bravi. E? Non come gli altri non avevano fatto niente. Non come gli altri. Ah, poi arriviamo alle porte, del villaggio. E ci sono le solite guardie che dicono: buongiorno, là, chi va là? Da Kretz, che sono sì. Siamo i... Ma come ci presentiamo? Cosa? Siamo i compagni di quelli arrivati prima, no? Beh, voi non sapete che siamo qua in realtà. Come no? Beh, andiamo all'abbazia. Se ci hanno ammazzato prima. Vabbè, ho capito, però noi dobbiamo arrivare all'abbazia perché siete voi. Come sai che siamo là? Dei nostri compagni dovrebbero essere giunti non ieri. Troppo tempo fa, ieri. Descriveteli. Sono due nani. Sì. Perché il giorno prima però noi dormiamo. Se no abbiamo fatto due viaggi, non l'avevate fatto prima. Esatto. Beh, no, sì, hanno dormito. Abbiamo fatto un riposo, breve, esatto. Aspettando Rani. Sì, poi due nani e un tizio in armatura. E una donna. Ah, sono vostri amici. Ci eravamo dati appuntamento qua. Anzi, avrebbero dovuto dirvi che stavamo arrivando. Attendete un attimo. Tutto lui entra dentro mentre l'altra guardia è lì. Coglione, burocrazia di merda. Che vi guarda torvo. Sono entrati? No, sono davanti alla porta. No, stiamo firmando. Siamo a State and Island. La guardia che guarda torvo. Cioè, dove c'è arrivato? Perché non sorride? Esatto. Ah, non funziona anche qua. Noi arriviamo all'alba. Sì, non la notte. Sì, tempo che ti ascolti le descrizioni, però arriviamo la mattina dopo. Vabbè, comunque è mattina. E da sulle mura compare il testone del borgomastro Dimitri Kretskov. Buongiorno. Com'è? Ah, voi siete amici di quei disgraziati che hanno vandalizzato il nostro gazebo? No. Non mi risulta che siano dei vandali. Beh, errore. Cosa avete fatto? Nessun gazebo. Ah, beh, perché è arrivato il tuono, ha sfracassato tutto. È arrivato il fulmine, grazie a cazzo. Ah, è colpa nostra che avevamo già diviso. No, ma di sicuro se l'hanno fatto non ce ne assumiamo la responsabilità. Non ve la assumiamo. No, che cazzo ne so io. E chi mi ripaga per i danni che hanno causato? Sono ancora in città? Non li abbiamo più trovati da quando sono entrati. Sono scappati e quindi... Saranno nell'abbazia? Nessuno va nell'abbazia. Beh, loro sì. Geni. Quanto costa questo gazebo? Ma qua non usiamo queste cose come i soldi. Quello va. Noi vogliamo il vino. Va ricostruito. Vino, possiamo ricostruire il gazebo. Non c'è problema. Ecco, sarà meglio. Anzi, meglio, ritroviamo i tizi che ve l'hanno distrutto. E glielo facciamo ricostruire. Va bene, ho la vostra parola. Perché loro non chiedono mai il vino? Certo. Sì, esatto. Oh, vaffanculo. Ho capito, volevo anche pagare io. Che cazzo. Vino. Poi magari ce l'abbiamo perché siamo andati alla storia. Adesso l'ultima preoccupazione è quella del gazebo che ha scontentato molto la popolazione. Lasciali fuori. Perché ci tenevano. Bene, riportatemi al mio cospetto perché paghino per i loro crimini. Ah, è già che ci siamo, dov'è la bozza? È giusto. Vabbè, si vede, immagino. Come... Ah, guardi, è quella forma di pene. Come... Non lo so. Come una la volta che una coppia di turisti che si è in piazza. Che cos'è? Dai, è razzista, Arci. No, è giusto. Che cosa? E in piazza Santo Stefano mi fanno: dove sono le torri? Io ti ho indicato che aspettano. Ho capito. Cioè. Hai capito, ragazzi? Perché... Vedi. Va bene, andiamo, grazie. Sì, adesso sì. Ci pensiamo noi a ritrovare i tizi. 29 anni. Che l'avevo già vista quando sono stato delicato. Andiamo verso l'abbazia. Salite in cima. Sì. Tutti impettiti. Esatto. Arrivate al cancello. Al cancello ci sono due umanoidi. Cazzo. Adesso entra no, il porco no, nessuno non c'è nessun pezzo. Salve a voi anime. Cose oggetto anime mortali. Io sono Otto, tu chi sei? Oh. Atanas. Ciao Atanas. Dei nostri amici sono arrivati, non so, ieri, credo. Oh, sì, sì, sono simpatici. Due nani. Sono vostri amici? Sì, sì. No, va bene. Si stanno aspettando. Si stanno aspettando. Ah, non mi avevano detto niente. Ho fatto un cazzo. Se lo saranno scordati. È vero che avevamo detto aspettateci 3 giorni. Siamo arrivati prima del previsto, però. E vado a chiamare. Grande. Ah, grazie. Ma l'ammazzo, mi sveglio. Va zampettante fino all'abbazia. Mm-hmm. E nel frattempo Siegfried è lì che vi guarda torvo. Squadrandovi da testa a piedi. Sorrida, buon uomo. Che si dice all'abbazia? Tutto bene? Abbiamo fame. Sì? Cosa mangiate? Qualsiasi cosa. Interessante. Però la bambina vi sta? No, l'abbiamo portata a dove. Vabbè, no, mi sono scordato. E ha fatto lì il punto. No, vabbè, non faccio. Vai, e quindi con la bambola di strada. Non faccio. Lui va dall'abate e poi l'abate viene a bussare alla vostra porta la mattina. Toc toc toc. Buongiorno, abate. Ci sono dei tizi che chiedono di voi. Chi sono? Che tizi? Bene, c'è cioè, uno fighissimo. Cioè, uno veramente bello. Di vederli dalle mura senza essere visti? Assolutamente. Che persona di merda sei diventata in una notte? Penso che possa essere. Magari una trappola. Ma posso andare in un punto? Cioè, in pieno giorno. Smeralda dice: ottima scelta, e prende la balestra. Ma perché? Ma che persone di merda c'è? In una notte le personalità sono capovolte. Vabbè, ce li descrive, sennò. No, sì, aspetta. Sì, sì, allora, mi vedo? Allora, lui praticamente ti porta. No, non voglio che loro mi vedano, però. Ok. Poi? Anche una fetta di culo la vuoi? Se sono loro, ce li ha descritti. Allora, ognuno faccia quello che vuole. Ti dice se vuole, li può entrare nel bastione del cancello esterno. E ci sono le feritoie. Sì. E Smeralda ti dice: vengo con te. Sì. Si arma. Ah, quello che vedi è questo: che io sono lì che guardo il cielo e mi faccio i cazzi miei. L'Asa è tipo imbambolato. E c'è lui che va dal tizio e gli fa: perché ti schiaffeggi da solo? Quindi in effetti è credibile. Garrosh, cosa fai? A questo punto vado con lui. Evitiamo di farci vedere. Mm-hmm. Può stare. Li vedo. Tu, Pact, stai a dormire? No, mi dirigo verso il mio mura dove quindi li vedo. Arrivi nel bastione, entri dentro, c'è la feritoia e sbirci da fuori. E vedo loro. Sì. Guardo, scambio uno sguardo di intesa con Smeralda. Me l'aspettavo più bella questa pazzia, però nel frattempo dico. E dico alla base. Molesto. Sì. Ti tocco. Li conosciamo. Prendo il pugnale. Esatto. Il pugnale. Ti tocco. Nell'occhio. Ma senti qualcosa? Dico l'abate, sì, li conosciamo, sono dei piantagrammi, non fateli entrare. Ho capito. Ma perché? Ma non ha senso. Non ha senso, ma hai ascoltato quello che ho detto prima io? Quindi, secondo me, loro, siccome infatti ho ragione... Siccome stanno bene, ci hanno tradito. Sì. Ma loro non può essere che sono nati, hanno preso il medaglione e sono tornati come esatto. Ci avevano detto. Come l'hanno detto. Esatto. Cioè, noi avevamo detto andiamo a prendere il medaglione e ci vediamo all'abbazia. E non sappiamo che hanno incontrato secondo te, e secondo te quanto è probabile? Più che altro aspetta, vediamo la adesso carrozza. Adesso Gaga parte. No, la carrozza non c'è da noi. Non siamo neanche arrivati in città. A parte che sono qua dopo 3 secondi, cioè nel senso... Dopo alcune ore, sbagliate ore. Siamo cioè, allora, le possibilità sono o hanno cambiato idea e sono tornati indietro, non sono andati a Vallachi. Per me non hanno incontrato. Ma la cosa strano, più probabile, senso. No, guarda che ci sta perfettamente andare a Vallachi, abbiamo preso il medaglione. Come fai a dire tornati? Che hanno incontrato strade esatto. Che sono dalla sua parte, che prove hai? Cioè. Per come? Cioè, nel senso, tu sei scappato all'abbazia. Vabbè, allora questa cosa dovevamo farla separata. Perché qui il metagame. Sì, no, scappato. Infatti, non è molto. È un po' metagame. Tu sei scappato all'abbazia. Perché i tempi tornano tutti. Con noi che torniamo prima. No, perché io questo l'ho detto subito quando voi siete andati via. E non c'ero. Io non quando siete andati via ho detto è follia e ho sì, detto, hai detto è follia, ok. Però non è che... No, io guarda, hai detto solo è follia, non hai detto ah, vaffanculo, non ci vedremo mai più. Esatto, avete capito la mia follia e follia non abbiamo tempo, se andate siete spacciati. Vabbè, ho capito, ma cioè, è diverso. Venga, riuniamoci, io non sono d'accordo. Allora, cioè, cosa parlatene. Cosa temo? Allora, cioè, nel senso, loro sono tornati. Noi abbiamo ingannato Strad. Cioè, loro hanno detto. Aspetta un attimo, loro hanno detto. Andiamo a prendere il medaglione e torniamo, ci vediamo all'abbazia. Ci sono riusciti, l'hanno fatto ottimo. Okay, ma oppure no, cioè, non lo so, però insomma. Oppure non siete andati a prendere il medaglione e siete tornati. Oppure ci hanno visti tornare indietro, non gli ha detto niente. Questi chi? Quelli che erano a Vallachi. Ma che ne sai che sono andati a Vallachi? Che ne sai che hanno incontrato? Ma Vallachi l'ha detto loro, cioè. Che ci andavano? Non, ma non, visti non sai andati? Neanche la situazione, capito, a Vallachi. Ho ragione. Cioè, sì, magari sono andati alla vecchia. Puoi comunque chiederci, cioè, siamo comunque sì. Compagni di viaggio, cioè, nel senso, non è che. Sì, però, considerando che in campo c'è Strad, che sa anche dove siamo. Fino a 12 ore fa combattevamo assieme, cioè. Sì, sono passati tipo. Cioè, ti fidi più di Esmeralda? 12 ore, sono passate 12 ore neanche. Ti stai fidando più di Esmeralda che la vedi da 10 minuti? Ma io non mi fido. Una bazzia di gente, scusami, a forma di animale. Cioè, se sono sopravvissuti, sono la mia idea è che se mai dovessero aver incontrato Star, perché tu ne sei convinto, delle due ci stanno facendo il doppio gioco per prendere tempo, come stiamo facendo tutti dall'inizio, da quando abbiamo incontrato Strad. Anche tu hai preso tempo con Strad, magari l'hanno fatto anche loro. In teoria gli intenti erano gli stessi. Vabbè, Vez non ci vuole aprire. Io non mi fido per niente, scusa. Le possibilità, se per me erano morti al 100%. Non lo sono, venga, chiediamogli se li vedo qua. Se li vedo qua vuol dire che sono sopravvissuti a Strad. L'unico modo per sopravvivere a Strad è vendersi sincerità. Cosa vuol dire sopravvissuti a Strad? Come fai a sapere che hanno visto Strad? Non era Vallachi, Strad. Strad sa che noi siamo lì. E loro non erano lì, ancora meglio, erano lontani dal pericolo. Delle due eravamo noi quelli che quindi si sarà alleato con loro. Ma chiediamogli, magari sono sopravvissuti. Magari possono anche essere in fuga anche loro. Strad vuole Irina. Noi siamo con Irina. Noi come cazzo facciamo ad essere ancora vivi? Loro se ne sono andati dal pericolo. Loro si sono allontanati dal pericolo che in questo momento è Irina. Niente dice che loro non siano in fuga. Dovrebbero anche essere in fuga anche loro. Pare che cioè, può essere. Strada probabile non è quella. Strada ci ha sempre trovati quando eravamo con Irina. Anzi, Vardi sarà lo statista. Guarda che Strada è meno probabile. No, Strada ci ha sempre trovati quando eravamo con Irina. Appunto, loro lontani da Irina erano più sicuri. Ma loro sono tornati lì. Ho capito. Tu non lo sai dove sono andati. Scusami. Obiettivamente, quanto è probabile che noi, avendo visto Strada con Irina di fianco, ci siamo salvati? Quando sei riuscito a prendere tempo la prima quando volta? Quando è che dovevamo partire con la cosa? Con Rasvid, Rigvi, Radvid, Gravid? Kevin. Radin. Dovevate partire quando lui veniva a prendervi con la carrozza. Svariate ore dopo che siamo partiti dalla città. Però quando? Il giorno dopo o quel giorno stesso? No, lui doveva venire a prendere dopo due ore. Dopo due ore, ecco. L'ha già risolta. Se sono andati a Vallachi hanno trovato Radin. Vorrei comunque ricordare. Sì, sono andati a Vallachi. Ma se non sono andati a Vallachi, che cazzo ha fatto? Noi abbiamo provato a tornare indietro. Hanno visto che era possibile. Allora, io mi fido che siano andati a Vallachi. Vorrei comunque ricordarti. Guarda che quando siamo separati, eravamo a mezz'ora dalla città. Una cosa, comunque, vorrei comunque ricordarti che tu e noi tutti siamo arrivati a Strad molte più volte di quante sono passate poche ore di quante sono successe. E Strad c'erano davanti, avevamo Irina di fianco. Per me la cosa è così, cioè solo così. Anche tu stesso sei sopravvissuto a Strad una volta in cui pensavamo di essere spacciati. Eravamo noi davanti a Strad con Irina di fianco e tutta la gente di Strad che ci voleva uccidere. E abbiamo preso tempo e fatto un patto. Ma io vi vedo sopravvissuti, ma penso che voi vi siate alleati con Strad. Vabbè, tu pensi che più parte. Non ha senso, però. Non ha senso, però. A parte sì, quello che è successo, ma vabbè, lasciamo cioè, stare. Ha meno senso il fatto sì, che non stai alleando. No, però è la cosa cioè, più metagame. No, questo no, è metagame, non è metagame. Però fai giocare gli altri. Tu dici di no. È un po' sì, perché ti stai fidando più di persone. Non è metagame, scusami. È pura logica. Allora, perché sono passati 6 ore. Allora, loro sono tornati a Vallachi senza una ragione. Ok, perché hai detto per il medaglione? Io ho detto il medaglione. Non era una ragione. Perché no, perché era un'arma utile contro Strad. Ma per noi non significava nulla. Non avevamo nulla che ci dava una base. Il suo personaggio non ha mai avuto niente a che fare con la difesa di Irina. Quindi in realtà ci stava quella mossa. No, loro... Cioè, era una cosa contro Strad. Era un'arma contro contro Strad. Noi l'abbiamo visto. Noi il medaglione l'abbiamo visto. Fermi un attimo. Per perso di vista. Ascoltami un attimo, però prima di dire la tua, posso dire la mia? Fagli dire una cosa. Ti dico solo questo: che secondo te l'obiettivo del party è difendere Irina. Non è mai stato così. È il tuo obiettivo. Il suo no, il suo è combattere Strad. Quel medaglione gli serve per combattere Strad. Stare vicino a Irina è un pericolo. Fermi tutti. Noi allora il medaglione l'abbiamo visto e l'abbiamo stabilito che era una pacottina. No, col cazzo, questo col cazzo. Io ho detto che era scarico, ma aveva potenziale. Col cazzo che era pacottiglia. A te magari sembrava pacottiglia. Allora perché cazzo non l'hai preso subito? Lo dovevamo prendere come ricompensa per. Allora perché sei partito con noi? Scusami, io a un certo punto voi ce ne siete andati. Io ho detto questa è follia pura. Perché secondo me andavate a morire da Strad. Però secondo me siete tornati, quindi chiaramente secondo lui noi morivamo stando con Irina. Tu paladino legale buono, i tuoi ex compagni non glielo chiedi prima invece che dire uccideteli? No, non ho detto non uccideteli. No, però, ho detto però, non fateli entrare. Però hai detto, perché non mi però fido. Senza chiedere, senza parlare con noi, ti sembra molto posso da personaggio? Posso anche parlare? Sì, secondo me no, è assolutamente sbagliato. Perché voi avete fatto una roba che andava contro di noi e non c'entra un cazzo. Ci avete abbandonato a metà strada, perché questa è la cosa. Ma non c'entra un cazzo con quello. Ma non c'entra? Non c'entra un cazzo con il non parlare con i tuoi ex compagni. No, cioè, ma non è questione, che ti stai fidando di una. Ma non è un discorso di fidarsi o non fidarsi. Il discorso avete passato la notte nel manicomio. Cioè, dopo ragazzi, dopo una notte con i tuoi compagni di tot avventura, i compagni di tot avventura mi hanno abbandonato a metà strada. Ma non gli chiedi niente, neanche tipo. No, come io non ho detto, uccideteli, io ho detto semplicemente non fateli entrare. Perché vabbè, non mi fido molto semplice. E poi è molto semplice. Ma no, ma posso dire la mia? Lui, tu l'hai già detta. Giochi così, gli altri come giocano. Va bene, parlate. Queste cose comunque Valestra le sta dicendo a me. Esatto, parlate. Esatto. No, però è molto semplice. Se noi dopo due ore dovevamo andare da Ravi, siamo partiti a metà strada così e tornati indietro. Ravi, per forza l'avete incontrato. No, perché eravamo. Se non l'avete incontrato, allora mezz'ora dopo di noi sareste dovuti apparire. Cioè, nel senso, ho due ore e non è andata così. Ma non sai cos'è successo, però. No, magari abbiamo avuto dei problemi. Non so cosa è successo, ma magari so che a livelli di tempi magari è quasi certo. Magari siamo fermati. Ma Vardistran è a casi di tempi è quasi sicuro che li abbiate beccati. Ma tu non sei uno statista, cos'è che no, però ho capito. Allora, ma non fermiamoci qua. Non fermiamoci qua. Andiamo avanti. Io la mia l'ho già detta, è solo un pelino. Andiamo avanti. No, te l'ho giustificato chiaramente. Andiamo avanti. L'abate dice: va bene, allora andrò a riferire di Diana. Vabbè, posso uscire io a parlare? No, ma noi non siamo ancora. Escici. Siamo ancora su noi. No, siamo andati con lui. Se vuoi parlarci, parlaci. Secondo me loro sono dall'altra parte. Poi io esco a parlarci. Ti segui l'abate, quindi esci con lui. Sì, vado verso di loro, insomma, voglio andare da loro. Sì, loro sono dall'altra parte del cancello. Urgrosh. Non so, Garrosh. Ma scenderà perché andare a fare. Non è a caso. Garrosh. Quindi Garrosh, voi vedete aprirsi il cancello, esce l'abate e dietro c'è Garrosh. Sì, non c'è motivo. Che cosa fai? Cioè, devi essere più sospettoso. Visto che Varys sarà sospettoso, usciamo io e lui. O l'abate. Esci con Garrosh. Vabbè, l'abate è ovvio che non è che è sospettoso, è strano e basta. Cioè, se Varys preferisce non farli entrare, è sospettoso per andare per fare una via di mezzo, usciamo noi. Io nel frattempo vado a recuperare Irina e cerco in qualche modo di nasconderla. Buongiorno Garrosh, buongiorno Pac. Buongiorno ragazzi. Com'è? Dove sono gli altri? Siete in fuga? Irina eravamo qua perché ci eravamo detti di incontrarci qua, no? Sì. Non avete beccato Strad? Adesso vi raccontiamo. Sarà altro castello. Adesso vi raccontiamo. Strano, avete incontrato Lupi Mannari? Perché da che sono no, io? Lupi Mannari no, però adesso vi raccontiamo. Beh, uno secondo me in realtà sì. Ah, uno sì. Sì, abbiamo incontrato. Fortunatamente siamo riusciti a sopraffare. Purtroppo o per fortuna è morto Kojanovic. Come è morto? Sbranato da. Era andato suicidato. Visto che gli abbiamo evocato una capra da corsa. Irina e Vardistran sono dentro. Non okay. Avete visto che fatto. L'elfo che era con noi Kevin. È in città. Non sappiamo siamo accordati. Il borgomastro è abbastanza incazzato con voi perché avete distrutto un gazebo. Non siamo accordati su cosa dire. Io direi tutto. Tutto cosa? Tutto quello che sappiamo. Beh, dai, oh, cioè, impersonato, non siete accordati? No, io direi beh, in realtà abbiamo avuto tutto il viaggio in carrozza. No, io gli direi la verità, cioè che Strad vuole Irina, l'abbiamo incontrato e che abbiamo una scappatoia, nel senso che vuole che Irina sia convinta di... Boh, io non glielo dico, ma se tu... No, io personalmente non glielo dico, ma se tu vuoi dirglielo non ti fermo. No, cioè ne parliamo prima. Cioè, nel senso, io glielo direi, non so, perché alla questa fine... cosa, perché dovrebbe ormai decidere siete lì, anche. Decidi. Okay, va bene. Allora, fai come vuoi. Glielo dico. Va bene, allora dite. È morto Koljanovic? Sì, abbiamo avuto uno scontro con dei lupi mannari. Purtroppo Koljanovic non ce l'ha fatta. Tutti gli altri sono sopravvissuti. Siamo arrivati in questa abbazia. Irina e Vardistran sono dentro, mentre... Beh, la scena della fontana l'avete vista, no? No. Allora, so che avete distrutto un gazebo e che dovreste riparare. In realtà è stata una scena abbastanza particolare, strana. Appena siamo arrivati in città ci siamo avvicinati a questa fonte d'acqua. Soprattutto ne è stata attratta Irina perché ha visto da dentro l'acqua, sempre causa di problemi quella donna, una specie di spettro presenza che abbiamo riconosciuto essere sì. No, lui ha lei ha detto sì, esatto, ecco, giusto, che Gazebo in realtà ha distrutto Irina, o quantomeno sì, tecnicamente. Però il tizio, il borgomastro, dà la colpa a voi e quindi ci ha detto che dobbiamo dirvi che dovete riparare. Alla raccontare il borgomastro è stato strano, esatto. Allora sappiamo che è andata così. Poi siamo corsi qui all'abbazia dove ci hanno accolto, immagino abbiate visto. Volevo fare battute ma non le faccio, che c'è la base. Dopo abbiamo visto questa bellissima base, ci ha ospitato per la notte. Bene. E poi dopo poche ore abbiamo visto arrivare voi. Allora, voi invece come siete sopravvissuti? Cioè, avete trovato il medaglione? Viaggio? Noi abbiamo trovato il medaglione, sì. C'è la Baer. Ottimo. Ma è FK. Baer, com'è il medaglione? Ok, ottimo. Però abbiamo trovato anche Strad. Ah. Siamo sopravvissuti. Siamo stati al suo castello. Ah. Ah, questo probabilmente è collegato con la mia perdita di forza e della lotta di forza, immagino. Non lo sai, questo non lo sai. Però lo vedo che lui è più in forza, io lo vedo che sollevo di più, giro sollevando di più. Strad ci ha accordato attuale, sai, 18 in forza e faccio più grosso. 16. Voi non avete più segni dell'invecchiamento. Okay, magari avete bisogno di riposare. Andiamo in camera a parlarne. Ok. Va bene. Va bene. Quindi pacifico. Beh, no, in realtà io lo dico comunque, dico ragazzi, Vardistran non è molto. Cioè, adesso off game. Lo dico perché non voglio che parliamo di Strad liberamente davanti alla base. Lui è amico di Strad e non lo sapete. No, dico Vardistran comunque un po' sospettoso, un po' pigliato male. È sempre stato. No, un po' di... nei vostri confronti intendo. Ah, ok. Bello, è sempre stato. No, bene, nei miei confronti no. Quindi sì. E quindi non è venuto fuori. E non vuole farvi entrare, quindi magari non vuole ricevervi. Vabbè, andiamo a una locanda. No, vabbè, ma andiamo a parlare. Andiamo a parlargli io e. Magari Urgrush, tu vai a dire. Rientriamo io e te, gli spieghiamo la situazione. Vedrai che cambierà sicuramente idea. Ci proviamo almeno, insomma. Andiamo al cazzo. Intanto che vai, intanto vai a chiamare Gar. Per vedere, capire. Ecco, se ha qualcosa di particolare, di strano. È incredibilmente bello. Parentesi, Katta, non ci sono i tiri fra player. Io avrei fatto un insight, però non ci sono i tiri fra giocatori. Beh, però non gli abbiamo mentito. Quindi con Strad come è finita? Adesso. No, cosa prendo voi? Sì, no. Magari ne parliamo. Magari ne parliamo dopo. Lasciamo di riposare. C'è la parte. Ha un comportamento. Un cane lupo e un cane. Estremamente. Sono i due stronzi, 8 tra l'altro. Sono tutti, sì. Alla fine delle movenze. Troppo aggraziato dove per essere nascosto. No, in teoria io adesso tu entri, vuoi andare da lui, ma lui se ne allora faccio come avevo fatto con tu vuoi parlare con molte altre persone in questa campagna. Io recito tipo un versetto in celestiale. Katta, io intanto rientro e voglio parlare con lui. Ma non lo trovi. Prosegue il versetto che hai. Come se è tipo è scappato. Allora, anche lei è un celestiale, dico, l'uomo timorato di Dio. Il cammino dell'uomo timorato di Dio. Perché sarebbe perfetto. Noi abbiamo uno dei video assassinati, insieme a lui. In realtà saresti... Banalmente un esperto perché sia così sospettoso dei nostri confronti. Evidentemente lei è un uomo retto e puro. Perché il tuo obiettivo ci può stare. Il mio passato è sono tecnicamente il mio è solo uscire da questa terra. Mi sono risvegliato molto lontano da qui, in un villaggio deserto. Però io sono convinto che da cicatrici sulla schiena e la mia conoscenza di questa lingua oppure no, in realtà è molto interessante. Cioè, dopo magari in gioco lo invito a meditare con me, perché in realtà lui ha detto che se sposa Irina la maledizione cessa e siamo tutti liberi. Questo è quello che Strad ha detto sicuramente. Se prendiamo per vero, ok, sono appena diventato best friend per vero della parte. Cioè, nel senso, io boh, vado dentro e voglio parlare con lui. Prima che lui, però, c'ho io del tempo. Dimmi, sì, mentre gli volevo chiedere alla tizia se mi dava una mano a il suo nuovo party. Sì, infatti, dove vuoi andare? No, è che si fide più della tizia di voi due. La tizia, però, è tizia. Se una senza una gamba indietro... che ha incontrato un'abbazia piena di stronzi zoppi. No, però ci hanno parlato e sicuramente sono parte, come obiettivo. Entrati sì, in contatto anche con Strad le sue forze. No, ma lei ne ha parlato Strad fino al giorno prima. No, questo stare. Io non sono no, ancora no, per certo, però non mi fido di loro e da dargli sicuramente sarebbero poi in maggioranza no, per prendere due. Irina. Vabbè, capito. Quindi voglio cercare di metterla al sicuro. Quindi come uscire di qua, questo ragionamento qua perché immagino che gli altri forse li fanno entrare. È ovvio che siccome non c'era magari uno può puzzare dietro gay, però se noi uscissimo molto da brutto dover nascondere sì. Se noi uscissimo da qua potremmo anche cercare l'elfo. Fidati del suo ragionamento confidando che sto giocando dal play o questi cazzi non è stato tanto. No, se te la senti c'è un modo di scavalcare la recinzione dall'orto. Il nuovo padrone uccide. Non so se la stai scappando tu, no? Ma scusi, Irina appoggia sta cazzata. Non so se Irina prova a chiedere. Ma scusi, tu scusami se pensi che lo ci abbiano tradito, scappi e lasci me scegli. Sì. Ho visto l'app. Voi a quanto pare mi sono convinti che loro siano. No, stiamo parlando per capire. Beh, nel senso, non è che arriviamo lì. No, nella mia testa il concetto è questo. Loro hanno per forza di cose sono dovuti entrare in contratto con uno strato. Il dubbio magari c'è. Se hanno tradito, sicuramente non è che vi vengono lì e vi dicono: ah, raga, vi abbiamo tradito. No, però magari voi quando diranno: ma sì, certo, ok. E voi direte: ah sì, grande, e vi farete entrare. No, no, ricordo che tra le due opzioni è più facile, visto che in teoria sono nostri amici, che stiamo facendo il doppio gioco più con Strad che con noi. Io non mi fido. No, ok, però dico, è come dire, perché a metà strada della cosa eccetera ci hanno lasciato in mezzo ai lupi eccetera. Per andare a prendere un'arma per combattere Strad che è loro. Per me, allora, one shot ai vampiri. Io Giulio che aveva che credeva, non lo so. Io quello l'ho visto e per me era inutile quel medaglione. A parte Vez, comunque ci siamo splittati in due gruppi da tre. Quindi se loro ci hanno abbandonato, tecnicamente anche noi abbiamo fatto. Cioè, io non avevo nessun potere, eccetera. Poi se ce l'ha, non ce l'ha, non lo so. Però io l'ho visto e per me non valeva niente. Ovviamente il tiro su inside non c'è, però io ho più fiducia che loro abbiano perculato. Quindi io non so se loro l'hanno fatto per avidità. Se l'hanno fatto cioè, per mio unico se l'hanno fatto su perché di loro, sono ricreduti. Il mio unico dubbio su di però, loro è che Strad possa però, averli plagiati. Come noi ci siamo in viaggio dall'inizio. E ora anche quello. L'unico mio dubbio è che abbiano dovuto fare degli accordi con Strad. Ho più la sensazione che l'abbiano fatto per salvarsi il culo e raggiungerci piuttosto che per tradirci e ammazzarci. Visto che siamo in viaggio dall'inizio. Poi se l'hanno fatto è anche magari un po'. Tu sì, ma io non mi fido. Perché non è che cioè loro a un certo punto così sono andati. Hanno detto: no, torniamo indietro e sono andati. E per me questo è. Prendere il medaglione. No, non è che sia tanto tradimento, però ci hanno lasciato nella merda uno. Ma anche noi abbiamo scelto nella merda. Noi stavamo andando di là. Beh, che poteva, merda poteva... Sì, ma potevano beccare anche loro i lupi, cioè nel senso... Ho capito, però di fatto ha splittato il party. Ci sta, però ha delle conseguenze. Sì, beh, se abbiamo splittato in due. Ma delle conseguenze sono per te? Sì. No, perché non ha avuto conseguenze reali sulle cose, ha avuto teoria, conseguenze solo ok, perché, ma nel senso non è, cioè tu nel senso ok, noi lo stiamo giocando tipo videogioco, quindi sostanzialmente no, splitto no, in dico, parti e vai, però no, in realtà l'abbiamo splittato, no, è che vuol dire che sia noi l'abbiamo splittato da una parte, sia tu l'hai splittato dall'altra parte. No, non è così, non è così. Perché no? No, perché noi stavamo andando da una parte e voi a un certo punto avete detto "No, noi torniamo indietro". Quindi no, per prendere l'arma che avrebbe ucciso Stark. Allora perché non l'avete detto all'inizio? Perché mi ero scordato che c'era il medaglione. Vabbè, grande, grazie. Però l'atto pratico non è... Il suo personaggio si era dimenticato nella fuga di scappare. Sì, va bene. Però l'atto pratico, a parte che non è... Poi è andata comunque, vabbè. Vabbè, abbiamo anche deciso così, ma fallo sì. Ma anche la compagnia dell'anello c'è stata l'unica cosa che magari nel tuo personaggio hanno pensato, che magari se noi abbiamo il medaglione siamo gli unici che abbiamo l'arma per uccidere Strad. Sì, per me il medaglione però non ha nessun valore. Cioè io il mio personaggio l'ha guardato. No, però lui ti ha detto che... A parte che lui non so se ce l'aveva detto, non sì. sono così convinto, sì. visto che metà delle cose non le dice. No, qui vi dico sempre tutto, sempre detto tutto in questa campagna. Lui aveva detto che aveva un potere, forse, così. Per cui è anche io l'ho guardato, per me non aveva valore, per me rimane il dubbio, soprattutto mi dico perché... Allora se aveva sto gran valore sì, non ma, l'abbiamo ma, preso ma, subito ma è quella, la cosa che mi puzza non è tanto il tuo pensiero di non fidarsi, è il pensiero di non parlare per niente con i tuoi ex compagni, è quello che mi puzza di quello come, però no, vabbè ci sta no, io non mi fido per un motivo molto semplice. Strade è molto più forte di tutti voi. Aspetta, no, io sono d'accordo cioè, sul che non fidarsi, io sono d'accordo sta, sul non fidarsi, non sono d'accordo sul è il non fidarsi così tanto, cioè è il parlare con i tuoi ex compagni che non ha senso. Cioè io da adesso che loro due sono usciti da pensare di scappare con una conosciuto esatto, un'ora è prima ma, no, esatto. ma è molto è un elfo no, ma è completamente assurda sì, sì, no, poi, non è, vabbè. No, non è assurdo, te lo spiego perché non è assurdo, perché l'abate è dalla parte del conte. Beh, sulla base lasciamo stare che non è il però all'atto pratico sì, vuole vendere una cosa, quindi è dalla parte, quindi cioè, se voi entrate e siete contro di noi avete anche la batte dalla vostra. Bastava uscire e parlarci più, però, esatto, in realtà. Cosa che, okay. cosa che non hai ma fatto. Ma se io esco e voi siete contro di noi, sono fottuto, Irina è fottuta. Cioè, è così. Cioè, non c'è un'alternativa. Ma se noi volevamo non fottervi, senso. Avremmo esatto. invitato Strada quando Strada esatto, è arrivato con il suo esercito di morti e Irina. Se arrivano da soli. Non ha veramente senso sta cosa. Cioè, può essere. In quel momento avremmo potuto so. Dire Strada entra, mentre siamo stati esatto. al tuo gioco per far scappare io Irina. Io non metto il dubbio il fatto che non ti fidi, metto in dubbio il fatto che tu non voglia per niente parlare con i tuoi ex compagni, neanche vederli, e la tua prima impressione sia scappare. Tra l'altro da background noi ci conosciamo da anni. Esatto, è completamente folle come cosa. Però rega, voi ci avete abbandonato a un certo ma punto. Ma non ha senso neanche chiedere spiegazioni. Siete tornati non indietro, ti ha abbandonato senza motivo. È come dire se... Quasi. No. Quasi. No. Se lui era convinto che quella è un'arma contro i vampiri... Sarà convinto lui, io sono convinto. Ragazzi, no. Sarà più probabile che vogliano fottere Strad piuttosto che... Ma non è quello il punto. Il punto è proprio non volere parlare con i tuoi ex compagni, assurdo. Cioè, il problema mio non soltanto è che potete tranquillamente uccidermi e fa lo stesso. È il problema tra è che... Ma nessuno ti vuole uccidere. Comunque, è assurdo. Cioè, non sei obbligato a uscire per parlarci, andavi sulle mura. Esatto, esatto. Tra le altre cose, è un pensiero completamente assurdo e fuori di testa. Dillo, voglio scappare con Irina, a me va benissimo, però non giustificarla con cose che non hanno senso. No, secondo me invece ha senso, perché voi, dal mio punto di vista, e onestamente poi a lato pratico è anche andata così, ma vabbè, voi siete per forza entrati in allora già il fatto che tu abbia premesso così vuole no, è tipo il metagame per definizione. No, perché per forza di cosa a parte voi siete entrati che in contratto? A parte che Salla appena detto giocate voi come cazzo vi pare. A parte no. che Reis, no, io non ho detto che Reis ho detto appena che detto a Garrosh che l'abbiamo ma, incontrato. Faccio una cosa io, non va bene. Fate una cosa voi. No, voi. No, ma in realtà va benissimo. Però io dico che è assurdo. Ma rega, ma abbiamo anche giocato da roleplay. Esatto. No, non posso farlo perché invece il caso, non te lo impedisce nessuno. Ma nessuno ti ha impedito di farlo. Smeralda ti mostra come uscire da un passaggio. No, sì, io lo voglio fare perché non mi fido. Cazzo, vabbè, nessuno te lo impedisce. Beth, Bona. Lo puoi fare tranquillamente. Ma ha senso perché voi a un certo punto a caso non siete tornati indietro. Non io vi ho detto, è follia. Non è importante che tu ci convinci, è importante che tu lo giochi. Punto! Io lo gioco così, non cioè, riga, veramente! No, io lo gioco così, però ok, se deve essere un problema per voi. Ma no! Di cosa? Non lo giocare lo gioco così, lo giochiamo a assurdo che tu stia cercando di convincerci. Gioca e basta! Io l'avevo detto subito. Perché è stato il problema quando hanno splittato loro il party, la stessa cosa, ma non ne hanno fatto una tragedia loro. No, no, no, io non ho detto niente lì. Però ovviamente avrebbe avuto delle conseguenze. E per me ce le ha, per te non ce le ha, per me le ha. Ma ci può anche stare che Vardy sarebbe presa male, magari ci no, ma non è che l'ho presa male, per me loro sono tanti indietro. Per me, io mi fidavo di voi ed ero convinto che sareste morti. Siete qua, mi mette molto sospetto, perché sicuramente per me, per a livello di tempi, siete entrati in contatto con Ravi, Ciccio oppure con Strad. Quindi, perché togliendogli e perché non gliel'hai chiesto tipo invece che cioè perché sei perché scappato perché abbiamo percolato già una volta però è assurdo magari anzi magari voleva prendere il medaglione per combattere Strade e sono riuscito a salvare però mi sembra molto improbabile infatti non glielo sto impedendo di farlo sto dicendo che è assurdo è inutile stare a polemizzarci sopra lui sceglie di fare così però per me è molto improbabile e se sbaglio la mossa Irina e io siamo morti. E infatti è una cazzata. Cioè, se loro sono siamo comunque, cioè, se proprio perché la base fosse messa male, allora facevamo un mini fight e riuscire a scappare. Se io avessi avuto certezza che l'abate ci proteggeva, allora l'avrei fatto. Ma visto che l'abate è dalla parte di Strada ed è convinto che però c'è anche la tipa dalla nostra parte al momento, dalla tua. Ma non è che devo riuscire a dire ehi, buongiorno, visto che voi invece non eravate. Ma no, siamo andati lì, è il nostro compagno. Non eri obbligato a uscire per parlare. Se non ti fidavi, ma volevi verificare che loro avessero mandavi loro. Andavi sulle mura e urlavi sulle mura e parlavi. Oppure mandavi loro e aspettavi per me la cosa migliore era non dargli senso. Però io non posso impedirvi. No, ma certo, non sto impedendo, sto dicendo che è una cosa stupida. E vabbè, uno può anche fare cose stupide. Certo. Non c'è nessun problema. Ti mostra come uscire. Dipende se Irina segue o meno. No, Irina ti segue. Lei invece ti dice io starò qua perché uno è il mio obiettivo, due. Ma come stieni qua? Non abbiamo detto. Smeralda dice vuole star qua. Io starò qua perché lo è. Ah, minchia, no, io pensavo venisse anche lei. E devi uccidere Strasman quando arriva. E ti dice io terrò d'occhio loro e ti saprò dire, ti rintraccerò. Va bene. E ti saprò dire se i tuoi sospetti sono fondati. Quindi noi sia né io che scelgo per niente, no? Che no, andato. Perché lui è scappato. Lui è scappato con Irina che lo segue. Che tra l'altro per noi è un tradimento ben peggiore di quello che noi abbiamo fatto a te. Ah, ci ha fregato tutti la porta. Esatto. Strada. Va bene, abbiamo visto la quindicesima. Il tradimento di Vardy, strana discussione. Figa, cioè nel senso, le azioni per me hanno delle conseguenze, poi si può far finta di niente. Però. No, ma per me è giusto che ognuno giochi come vuole. Il suo personaggio io l'ho interpretata così da subito. Poi io non ho capito bene voi cosa vogliate fare, ma vabbè, è rilevante. Hai chiesto è quello il fatto. non lo puoi capire perché tu tutto quello che noi abbiamo fatto in teoria non lo sai. No, certo, appunto, non quello, lo so. È per quello che non lo so, però io ho preso folle, sei semplicemente scappato. Mi sei andato via. Sì, io scappo perché c'ho cazzo di Strada e mezzo mondo contro e di voi non mi fido, visto che siete andati nel momento giusto. Ma anch'io magari c'ho mezzo mondo contro, ma non lo so ancora. Tecnicamente. Ogni posto dove vado sono qua a favore di Strad, voi a metà strada ve ne siete andati, io non mi fido. E vi siete incontrati con gli altri. Non sto fido, dicendo punto. Che è sbagliato che tu non ti fidi, è sbagliato non parlare con i tuoi compagni che non hai visto. Non ho nessuna protezione da parte di nessuno. Chi se ne fotte? Parlavi dalle mura, la loro protezione. La loro protezione, sì, loro. Esatto! No, cioè, perché loro. Cioè, si fidano di voi, evidentemente. Esatto, no, ma io quello che dico è: se anche. Cioè, come ci sono stati tanti volte a faccia quando abbiamo fuggito. Voi chiaramente non la pensate come me. Ma no, io semplicemente prima di dare contro a uno ascolto. In realtà sta creando un piano perfetto, così noi adesso. Anche prima di ammazzare il tizio, prima di ammazzare il capo. Voi chiaramente non me la fai. È una cazzata perché Strassa è esattamente dove è Rini in ogni momento. Mi dispiace per me. E noi ve l'avremmo anche magari detto. No, no, ma io lo so. E allora perché? È un suicidio. Ho capito, almeno la nascondo da voi se siete cani di strada. Ma non puoi nasconderla da strada. È assicuro con noi. perché siamo di più rispetto a con te da solo e Strad. Sì, ma io preso per, hai preso per certo che loro sono dalla parte di Strad quando fino al giorno prima erano con noi, che non ha troppo senso. Senza neanche parlargli più. Anche io magari posso dubitare che abbiano tradito, ma se mi dicono che hanno preso il medaglione, Strad sta venendo a prendermi, insomma, cioè, magari mi preculano, però non posso saperlo. No, no, beh, potevo uscire anch'io a parlargli, quello sì, però il rischio era che poi dopo mi trovavo intrappolato e Irina era fottuta. Ma potevi anche lasciare andare loro e poi aspettare che loro tornassero a riferire. Ah, sì, quello sì. Cioè, potevi fare un sacco di cose illogiche. No, sì, invece hai fatto una cosa che è completamente illogica. Sono un coglione. Ma no, ma è illogica, perché se il tuo obiettivo è l'obiettivo del tuo personaggio, il tuo personaggio no, ovviamente mille pare, dai. No, ci sta, infatti. È giusto che... Perché se l'obiettivo è proteggere Irina, isolarla dagli altri, non è il contrario. Va bene. Tra l'altro, l'abbazia è l'unico posto sicuro. No, non è sicuro, evidentemente. Tra l'altro sono diventato amicone mentre c'è la discussione del tipo lì.